tengo con una pistola puntata al cervello. Faccio il riassunto, dai. Allora, aspetta un attimo qui. Ok. Procede a buttarsi nel cestino. Ah, no. Ok. Ho ordito la forza dell'acqua. Si butta via. No, più o meno è quello che è successo a Nivel, nel senso che è stato avviluppato dal mondo. Ma nelle puntate precedenti, i nostri baldi non tanto giovani eroi si ritrovano appunto giovanissimi. No, ok, sì, però sei in minoranza. È media o mola? Bello. Allora, appunto, i nostri baldi, sicuramente eroi, si ritrovano su una nave che giustamente, grazie a... come si chiama il tizio? Katu? Aku. Aku, c'ero. Grazie appunto al capitano della nave Aku, partiamo senza provviste e scopriamo successivamente senza aver fatto nessun sacrificio. Ma poi ci arriviamo. Ovviamente il problema delle provviste si fa palese man mano che passano le ore e si fa sera e giustamente siamo tutti. Che cazzo mangiamo? Allora, Aku si butta prontamente in mare, Adone miseramente, fallendo miseramente, lancia il suo coniglio in mare che sprofonda. Sacrificio in mare. Mif. Cosa? Il sacrificio in mare. Mif. È stato quello del il coniglio. Certo. Eppure è il coniglio di un dio, quindi insomma. Oh. Doppiamente bestemmia come mettere i malapenni nella cesta. Andiamo avanti. Non è mai successo niente. Mif, con il potere del se ci credo lo faccio, ha materializzato una lanterna che poi prontamente è esplosa, perché il mondo è sempre perfettamente equilibrato. Ciò che Lieto ha lanciato una palla di fuoco a un certo punto sulla lanterna. Sì, è per quello che esplode, perfetto. Nibel si era buttato pure lui in mare per pescare, o aveva usato un arpione, un voto di memoria? No, Nibel non è entrato in mare per pescare. Ok. Nibel è entrato in mare un altro perché abbiamo visto un cadavere galleggiare. No, dopo, un secondo. Sì, ormai era Nibel. Vabbè. Comunque, una volta procacciata la cena, Adone da... brava donna qual è, perché adesso ricordiamo è all'aspetto di una donna, non cambia molto. Adone appunto si mette a cucinare assieme ad Aku. Poi mentre il nostro trio di persone vagamente normali si mette a discutere su cosa dire ad Adone, come approcciarlo eccetera, allora Nibel viene mandato come agnello sacrificale a parlare con Adone. Si parlano un po', Nibel non sembra essere convinto, la cam si è bloccata, lasciamola lì per un attimo. Nibel esplode tutto. E, comunque, cena pronta, si mangiano le pappe, nel mentre Adone rivela, ma io non ho bisogno di cibo. Questa cosa non verrà... Però mangia comunque. Riesce a rompere il cazzo, è impressionante. Esatto. Proprio una donna. La e dopo che conosciamo, amiamo. Esatto. E dopodiché, appunto, è sera, troviamo quello che sembra essere un cadavere nel mare. Ora, io ci tengo a specificare una cosa. Adone un pochino insiste per andare a vedere il cadavere, però oggettivamente Lieto e Mif erano curiosi come la merda, quindi a prescindere saremmo andati da quel cadavere. Io metto le mani. No, Lieto è al contrario, Lieto lo lasciamo lì quel merda di cadavere. Si è messo agli atti. Ok, allora solo Adone voleva andare da quel cadavere. Andiamo Mif da quel non cadavere. Mi ricordo, però Mif non sta parlando. Non mi ricordo nemmeno io. Perfetto, allora niente. Nibel si butta in mare per recuperare il cadavere e prontamente questo cadavere lo trascina nelle profondità dell'acqua e così è finita la sessione. Tu che sei messo in Absolute Cinema, no. Lo trovate anche su Telegram. Ika, che lo vedo solo io. Ika, okay. No, lo vediamo anche noi. Ok, no, eri tutto pixeloso, sei... Ah sì, ogni tanto ho visto che fa degli effetti un po'. un po'. Ho tutto voluto. Allora, ho quasi preparato tutto. Ho notato che non ho un token vero per Lieto. Ah, vabbè, però... sì. Sì, sì, sì, non ce l'ho mai avuto. Sì, sì, non ce l'ho mai avuto. Esatto. No, perché mi ha sloggato da 20? Sì, esatto, sarebbe utile loggare per il semplice motivo che è un combat. Quindi non serve Roll20. Quindi non serve Roll20, come tutti sapete, perché facciamo il combat come nei Pokémon. Quindi ognuno fa il suo turno, decide... No, sto scherzando, serve la cazzo di... infatti. Chi ci ha creduto è scemo. Mi spiace, non faccio io le regole. Ti ricordi che dovevamo sistemare il mana? Assolutamente me lo ricordo, assolutamente lo faremo la prossima volta. Detto due menzogne. Fermi adesso, porca puttana! Hai il mana che ci hai sentito. Tra l'altro non è che avete riposato, quindi è canon. Ma secondo me era il 5 all'inizio sbagliato, non ho un mana massimo, un 5. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, non ho un token per le creature che state per affrontare. Quindi ho messo dei token a caso. Ok? Ci siamo? Siamo tutti d'accordo? Benissimo. Non ti ricordo. È il cambio di scena. Effetti speciali. Technology. Tecnologia. Esatto. E ora non ci crederete, ma abbiamo anche il cambio di playlist. Mi si è bloccata la cam. Ho il tempo per farla ripartire, intanto che io... Se vuoi ti do dei token che ho fatto io un po' di tempo fa. Minchia, per le sirene? Ci token generici. Sono delle sirene? Sì, ho generici, ma non c'ho quelli per questi, perché sono un'altra cosa a cazzo. E li colorerò anche dopo per farli funzionare meglio. Però le tecniche, per non c'è la differenza. Nibel viene tirato giù sott'acqua dalla creatura che sembrava una donna, ma evidentemente non era così. Siete in quattro sulla nave, voi tre e Aku. Aku si guarda intorno per cercare di capire cosa sta succedendo e a un certo punto sentite uno snap metallico, qualcosa che si spacca. Aku capisce subito e sbianca in viso, stanno guardando, dicendo: porco Ramuri, hanno spaccato la cazzo di ancora! Vado ad attivare i motori, altrimenti qua andremo alla deriva. E sparisce nella stiva della nave. Rimanete in tre sul ponte e uno in mare. Vedete affiorare dall'acqua due creature, dal lato nord, e una terza un po' più in là, più lontana, mentre Nibel è verso il lato sud. Voi state procedendo verso est, se lo state chiedendo. Ehi. I tre a bordo potete scegliere in che ordine fare. Agite prima voi e poi passo a Nibel e poi alle creature. Questo è il tuo order. No, una roba che mi ricordo è che Meph mi ha rubato la pistola. Sì. E have a gun. La polvo... La polvo già prestata, lo so. E la mana che ce l'ho io. Di solito ce la vuoi togliere e metterla, esatto. Vabbè, le sai le statistiche della Managan perché è scritta lì. Vabbè, vai a consultare la scheda di esatto. Vai con... Che cazzo ce l'hai la Managan dietro? Nel braccio destro. Ah, ok, grazie. Scusami, domanda molto stupida che io mi dimentico sempre. Dobbiamo tirare iniziativa? No. In order. Agite voi tre nell'ordine che preferite, poi Nibel e poi le creature. Ah, siamo la colonna di quelli che... Sì, sì. Ok, prima di medesimarmi in Nif, partirei prima io. Va bene, vogliamo fare... Aspetta, scegliamo un attimo il turn order prima. Esatto, giusto per... Preferisci andare prima tu, Ika, o vuoi che vada io? Ma fai andare Nif, e poi... No, sì, Nif, dici, poi... Ok. Vado io? Va bene, vai tu, io vado per ultimo. Ok. Fatemi soltanto un attimo che devo misurare. Sì, grazie. Era prima Adone e poi Lieto. No, okay. Lieto e poi Adone. Ok, non so perché si chiama Zanzana. Lieto, fatemi i soldi. Bello, bello. Ho ereditato il terzo nome. Poi mi sembra anche fitting che abbia ereditato. Ok, prego. Ok. Non riesco a spostare il mio token, quindi si sposta leggermente avanti, nel senso che si sporge verso, insomma, se c'è il bracciolo della nave, si sporge un attimo e prova a castare Terrify, che ha 8 totale di range. Adesso ci provo. Qua, tipo. Sì, perfetto. E che ha 8 totale di range, quindi ci arrivo tranquillamente tecnicamente. Allora... Non sono sul vostro piano, essendo in acqua sono più in basso. Sono più basse. I vicini sono al livello dell'acqua, quindi 2 metri più in basso rispetto a voi, quindi devi aggiungere 2 alla distanza. Quello lontano okay. È sott'acqua, quindi è 4 metri sott'acqua, quindi devi aggiungere 4 alla distanza. Quindi è 9, non ce la faccio più, no, aspetta un attimo, 3 per... Ah no, è 3 per... No, no, ci arrivo, sai... Perché 3x4 più 3x5 fa. Sì, ce la faccio. No, è 3x4, 12. Ho il Wizardry. Ho il Wizardry, ho più 1S durante il lancio di Terrify. Ah, ok, okay, lei è proprio selezionata, ci sono. Quindi sì, sì. Ok, quindi ci arrivo anche sotto. Devono poterti vedere, quindi l'ultimo è comunque fuori perché è sott'acqua. Ok, ha senso. Allora facciamo quelle due. E Miff grida a voi di non girarvi e appunto casta Terrify. La difficoltà è 5 più mana, che è, più mente, scusami, che è 3, più livello, che è 3. Quindi 5, 3, 8, 11. Non scrivo i bonus qua, perché almeno troverete la cosa curiosa. Quanto è, scusa, hai detto? 12? No, 15. Dovrebbe essere 11. 5 più 3 più 3. 6, 5, 11. Sono entrambi immuni a questa cosa. Cioè, sono resistant. Ok. Ho fatto 8 e 9 sul dado. Sì, sì, sì, ho visto. E vabbè. Se avesse 4, basta. Se avesse più 3, il primo l'avrebbe preso nel culo. Se hanno almeno più 4, se volete fare la roba meta. So che vi piace fare la roba meta. Okay. E allora posso sparare anche, giusto? Ti sei una magia, sì. Terrify è un'azione extra? No, è un'azione. Non puoi sparare, cioè o ritorni al punto dove eri, cioè te lo concedo. Ok, allora sì. Ok, perfetto. E no, ero, vabbè, leggermente più vicino ad Adone, però ci arrivo comunque, quindi non è un problema. Allora sì, sparo, consumo un mana penny. Non funziona così. Cioè, consumo un mana penny per dargli di 6 cariche. Ok. Tira un D6. Faccio un D6. Ce la posso fare. Fai uno, è esatto. Sei. Hai 6 proiettili. Ok. E quindi posso sparare 6 volte? Questa non l'ho capita. Sì. Beh, no. Hai 6 proiettili. Quindi ho 6 proiettili prima di dover ricaricare. Sì, esatto. Ok, perfetto. Questa cosa di ricarica è un'azione extra, quindi tu hai fatto il tuo turno per tira un 10 per colpire, il tuo bonus è più 2 perché non hai mai usato una pistola in attacca. È la seconda, esatto. Ok, aspetta, allora ce la posso fare. 10. Miss, il proiettile, il raggio che hai lanciato, wow, un buco nell'acqua, proverbiale buco nell'acqua. Come ben sapete, ogni volta che passate tutte, la loro evasione scende di più. Va bene, a posto allora. Tocca ad Adore. Quello che avete ricavato da questo turno è che sono difficili da applicare i malus e difficili da colpire. Prego. Tutto lieto. A me. It is me. It is I. E... Io ho poco mana. Cioè, non è che ho poco mana, io ho 0 di mana. E 0 di mana e 4 di fatica. 4 di fatica. Se vuoi puoi prenderti la pistola? Una pistola a destra. Esatto, sì, ce la rubiamo. Un'azione extra per passarsi la pistola. Ma no, ma dai. Dai, 19. No, no, no, ma infatti. Sì, sì, sì. 18. 19, perché hai un... Basta. Ok, ok, va bene, va bene, uscito, una di mana in più che lo butto via. Vabbè, Blade Rain, wow. Ok. Che Fireball in acqua mi pare un po', no? Fireball e Vita Genesi in acqua. Zitta, però vuoi che però mi sembra un po'. Ok, non devi tirare nulla, paghi solo il costo, che è 3. Ok, yes. Sei a 16. E generi 4 lame. Yes. Sono 4 più M celle, quindi sono 6 celle di distanza. Arrivo a tutti, meno l'ultimo in fondo, forse. Sì. Credo che attaccare sia un'azione extra, quindi poi è quella che mi fa la spalla. Sì. E 6 celle. Come dicevo, quelli lontani sono 4 metri di distanza, perché sono. Cioè la nave 2 metri sopra il livello del male circa e altri 2 metri sopra l'acqua. Ok. Questi qua sono 2. Ok. Questo è 6.5 e questo è 5.7. 7.7. Diciamo che questo è vicinare di 1. Sì, in realtà sì, una casella avanti. Basta che vado una casella in avanti. Danno. Tira perché pure. Yes. Non facciamo la regola divertente che poi esistono i critici negativi, semplicemente non lo colpisci. Ma la sua evasione scende. Allora, se mi ricordo bene come funziona sta roba, Sara prima ha preso +1 all'uso delle armi da fuoco. Anche se non è andato. Sì. Quando fai l'azione una volta per turno ti dà l'esperienza. Tu invece prendi un punto a ontica. Ci sto facendo questa nota qua per ricordarvi le regole. Quando se avessi colpito per peso. Sì. Quando attacchi con Blade Rain, credo conti come. Cioè, se crei le lance conta come lancia. Se crei le spade conta come spada. Cosa hai creato? C'è un vantaggio di qualche genere? Sì. La scelta? La competenza che prendo? A parte quello, le lance fanno un D8 e hanno più 2 precisione. Ah, è vero. Sì, per tutta competenza. Sì. Però fa danni perforanti. Per la spada fa un D6, non altri 2, fa danni da taglio. Prendiamo i danni perforanti. Facciamo il capitano Hub. Colpo di mille balene. Che ho segnato l'esperienza. Se non più di una lancia. Avrei già un po'. Il turno tocca ladone. Allora. Ti faccio una domanda. Allora, Adone si sposta. Si mette qua. E posso usare. Mi si è bloccata la camera, vabbè. Posso usare Future Glimpse per vedere cosa succede se io mi butto in acqua e provo a cercare Lieto e Nibel? Nibel è un'azione extra, quindi se lo okay. Fai è un'azione extra. Va bene, tanto le azioni extra... Dimmi. Puoi usare in un altro modo. Ed è... No, in combat funziona in maniera leggermente diversa, cioè se lo vuoi usare... Io ho visto come funziona. Ah, ok, allora fammi un attimo pensare. Non posso rendere avversario propizio una cosa che non è ancora successa, vero? No, e poi deve essere contro di te. Ok. Indovina che cos'è questa canzone. Ok. Un'azione extra. Faccio un'altra domanda. Se io butto una scarica di fulmine nell'acqua, quant'è oggettivamente il raggio di sta roba? Il fulmine in sé è il raggio della spell. Certo. Quanto si estende non è la valida idea, non l'hai mai testato. Perché ho paura di friggere Nibel. Oh, well. No, no, well un cazzo. Ho detto che non volevo fare nulla di male a Nibel. Fai quello che devi fare. Non ti preoccupare. Cosa dire? Ma tu mi hai tolto degli HP, Bianish? Non mi pare. Cioè, non ho preso del cazzo. Allora, da quali devo vedere? Quelli della scheda o quelli sul... No, quelli della scheda. Su Roll20 è il token, quindi fa dei valori a caso. Okay. Okay. Allora... Bucci. Ora sono per te. Vai... Siri. Vabbè, facciamo che ritorno... vabbè, torno dove ero e provo ad attaccare. Cos'è che dicevi? Che sono resistenti ai malus e... E sono difficili da colpire. Capito. Allora, provo ad attaccare questo qua. Vediamo se ci arrivo con la mia bacchetta di rubino. Forse non ci arrivo, sì, vediamo. Esatto, di 2. Raggio 6, no, ci arrivo. 6.2. Come ho detto prima, te lo lascio fare. Do 20 centimetri, te li regalo. Ok, va bene, va bene. Ok. Il cazzo di Carmillo, insomma, quello. Mica veramente. Sì. Ok, rollo per attaccare. Devi rollare per colpire, assumo che l'avevi ricaricata. Sì, era un D10, scusatevi. Sì. Ok. Ok. 8. Il tuo bonus a colpire è più 3, ma arma magica vai a 9 di esperienza. Hai fatto un totale di 11 e missi. Madonna. Ed era già diminuito quello stronzo, oltretutto. Fare dell'altro è un'altra azione, altrimenti andiamo a Nibel. No, ti lascio. Passiamo a Nibel. Ok, Nibel. Com'è che funzionavano le azioni? Cosa secondo Bianic? Io ho guadagnato più 1 a velocità di movimento. Hai tirato una spell? Ah, no, è vero, scusami, hai ragione. Scusa, prego. Scusa. Se tiravi una spell, sì. Dicevo, hai due azioni base e un'azione extra. Non puoi ripetere le stesse azioni nello stesso turno. Ok. Ricordami con Kickmaster che dice puoi spendere un'azione base per effettuare un attacco senza armi come azione gambe, anche se hai già attaccato in quel turno. Esatto, puoi attaccare due volte per turno, anche se normalmente non si potrebbe. Ok. Cioè, quindi non consuma l'azione base, è quando fai l'azione base di attacco attacchi una seconda volta. Sì, praticamente sì, però poi non ti puoi muovere nello stesso turno. E non potresti comunque perché ti mancherebbe l'azione. Sì. Ok, vabbè. Come sono messo al momento? Sono sott'acqua, cosa vedo? Sei un bel pezzo sotto la superficie dell'acqua, circa la tua altezza dal livello del mare. Hai qualcosa che ti sta afferrando da dietro, è qualcosa di affilato, un pochino appuntito, e è buio pesto intorno a te. Cioè, se guardi verso il basso per capirci, non vedi niente, vedi l'oscurità completa. Io sento che quello che mi sta afferrando è dietro di te, più o meno delle mie dimensioni, cioè che è attaccato a me, oppure qualcosa di più grande? È più piccolo. Ok, allora mentre sono sott'acqua che faccio fatica a respirare perché sono stato buttato giù di colpo. Ripenso agli eventi recenti e ripenso come Nibel ha usato più volte la magia per lanciare l'incantesimo e in un attimo pensa cosa se potessi utilizzare la malattia che ho per aiutarmi effettivamente in qualche modo e in una frazione di secondo il blu che compone la malattia di Nibel, però non i funghi proprio, non, cioè il corpo del micete e non proprio il cappello del micete, si espande in tutto il corpo, la pelle di Nibel diventa completamente blu, entrambi gli occhi e l'interno della bocca si illuminano di blu e cast over power. E okay. I muscoli di Nibel vengono amplificati dal micete. Non devi né tirare né niente. Paghi il costo, che è 1, quindi ti rimane 45 di fatica da poter buttare via. Prendi esperienza. Sì, prendi esperienza in magia naturale e hai tutti i bonus di overpower. Quindi più 2 mente fisico e puoi usare le reazioni per tirare i pugni. Sì. Io uso. Devi tirare un D4 per vedere quanto dura. Sì. 3 di 4, scusami. 3 di 4. 8 e 1, 9. Hai 9 turni di quest'aura. Perfetto. E vorrei utilizzare la base per afferrare qualsiasi cosa ho dietro e tipo proprio strapparla via. Ok. Ti faccio fare un test di sollevare. Vabbè, vediamo il risultato del tiro, poi vedo. Sì, è un test di sollevare, quindi hai più 9, perché è più 2 rispetto al valore che c'hai già. Sarebbe 10 il risultato totale. No, a meno che non è un fallimento garantito. No, non esiste il fallimento garantito. 10 è a malapena sufficiente per scrollarti di dosso qualunque cosa fosse. E cerchi di buttarla avanti, ma come un pesce lanciato in acqua, si muove molto rapidamente e si leva subito dalla tua vista. Quindi ora non sei più grappled e non hai visto cos'è. Hai visto solo che aveva una coda di pesce. Ok. E se ho del movimento vorrei muovermi verso la barca. Anzi, sì. Io non ho sentito che ha parlato dell'ancora, perché ero in acqua, giusto? Esatto. Ok. Allora vorrei muovermi verso la nave. Allora, come faccio per salire? Posso... È un roll, è un test. Hai più 6, perché okay. Hai più 4, più 2. Papà fisico. Nuotare. 14. Perfetto, non c'è nessun problema. Avevi una corda legata in vita. Non è stata strappata. Quindi capisci la direzione della nave dalla corda, non dai tuoi surroundings, che al momento sì, c'è una luce in alto, ma non sei frastornato. E riesci ad emergere dall'acqua e avvicinarti alla nave. Sei a pochi centimetri dalla chiglia, cioè al prossimo turno con una bracciata riesci a risalire a bordo. Ok. Mi metto spalle contro la nave. Ok, guardi la creatura. Che al momento è una macchia nera in un mare di oscurità, perché è tutto buio. Sì. Fatemi rimettere la playlist e la loop. Mi spiace che siano solo 5 canzoni, però erano ok, dai, erano... ok. Andiamo in ordine. La prima cosa è che voi sentite... sbattere, nuotare nella vostra direzione, oltre di sopra, quindi intuite che o è Nibel che si avvicina o la creatura se l'è già mangiato e si sta avvicinando a mangiare voi. Di sopra, le due creature vicine a voi sono affiorate dall'acqua, erano già sulla superficie ora sono proprio uscite fuori e riuscite a vedere chiaramente che hanno il corpo di donna dalla vita in su, con tanto di semi di una taglia coerente con questa campagna. Ma è modo da consiglie. Ah, dici pure. Cioè, c'ha un senso questa cosa. Hanno i capelli molto lunghi, lunghissimi, di un colore tra nero scuro con dei riflessi azzurri e squame su varie parti del corpo. Il volto è quello di una donna, ma quando aprono la bocca, quando fanno del... quando dovrebbero muovere la faccia, vedete che si contorce in un modo innaturale, cioè come non farebbe una faccia umana, ma come fanno altri animali, cioè si muove come fosse un pesce che ha una faccia umana appiccicata sopra. Molto creepy. Dalla vita in giù ha delle squame e una coda di pesce che riesce a rimanere stazionaria sul punto in cui si trova. Quindi mostra una certa agilità da questo punto di vista. Partiamo da queste due che iniziano a cantare. Bello, eh? Il canto, nel caso ve lo stesse chiedendo, è un test per voi. Dovete resistere tutti e tre. Siete tutti e tre nel range, perché la seconda si avvicina e siete qua. Guardate. Sono due test, uno per il primo, esatto. Grazie. Aspetta, lo devo tirare un'altra volta. Quindi aspetta, quindi non ho capito sì, quanto sì. Quanti dadi devo tirare? Due dadi sul resistere. Quanto hai a resistere, sai? Aspetta, ho più tre, non capisco perché non mi ha dato il comando. E Adone quanto ha a resistere? Due a resistere, due. Quindi non hai fatto 11 e 5, giusto? Sì. Li hai falliti entrambi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Vieto ha fallito il secondo. Ah, giusto. Arrivo, ce la posso fare. Sì, appena fai quello di Mif, vi dico cosa succede. Nibel è immune a sta cosa, cioè senti una musichetta lontana, ma non capisci cosa sia. E... mi si è inculato Roll20, devo fare così. Orla, infatti lo sapevo. Hai fatto dei tiri pessimi. Pessimi. Hai fatto tre. Ho più tre. Ho non più tre. Posso usare Future Glimpse, vero? Perché sì, funziona solo. Posso? Allora, come reazione devi averci la maestria. E allora non lo posso usare. Ce l'hai, credo. Perché perfetto. Sì. Lo posso. Bene. Mif, allora, andiamo a morire. La voce di queste creature ha chiaramente delle proprietà magiche. Perché quello che sentite è un canto, ma siete fisicamente impossibilitati a fare delle azioni che possano nuocere a quelle persone. Siete charmed. O meglio, tutti e tre siete charmed dalla sirena di destra e tutti tranne Lieto siete charmed dalla sirena... Vabbè, gli altri due sono charmed dalla sirena di sinistra. Quindi sì, ogni vostra azione, se ha la possibilità di nuocere a uno di questi, non la potete fare. Avete proprio un blocco. Però potete fare male alle altre, potete fare qualunque altra cosa. Alla fine del vostro turno ripetete il charm con difficoltà ridotta, okay. Quindi ve lo rimuovete. Non vi possono charmare due volte, cioè la stessa creatura non vi può charmare due volte. Ok. Questo è il primo giro di... anzi, quella destra ha finito il turno perché si è mossa e ha cantato. La seconda ha ancora un'azione. Quindi si toglie una delle conchiglie che ha sul seno e la lancia a Lieto. Fanno. Esatto. Oh no! Quanto hai di evasione? Quanto di evasione? 10. Prende in pieno. Oh no! Fa 3 danni da taglio. A 15 minuti. La conchiglia in sé è estremamente affilata e quando ti colpisce si frammenta, quindi le schegge ti fanno male. Ok. Però ora ho una tetta di cuore. Una tetta di cuore. È vero. L'ultima cosa che succede da questo lato della nave è che la creatura che era dietro, che è pressoché identica alle altre, esce fuori dall'acqua e vedete che ha qualcosa stretta fra le mani, una specie di catena, e inizia a fare questo movimento con l'ancora. Quando è il vostro turno capiremo cosa vuol dire questa cosa. Io cane. Come? No, niente. Ok, ci sta a bestemmiare. Andiamo a quella di sotto. Quella di sotto emerge dall'acqua e vedendo che non ha modo di riaggrapparti in modo sicuro, diciamo, ti lancia entrambe le conchiglie. Sono entrambi più 8, quindi è un 16 e un 12. Sì, beccano entrambe. Sette danni, vai a 31 e non ne ha. Fatemi segnare quanti sono rimasti, questi copri capezzoli, fondamentali ai fini del corretto svolgimento dell'avventura. Aspetta, finisco di segnare io. Prima c'è. Bene così. Sì, ho finito, cioè questa qua rimane sull'acqua. Aku non ritorna ancora e non sentite nessuno di me. Tocca a Adora. No, okay. Miff per te. E infatti Miff lieto Adora. Vuoi che vada io per primo, mi desideri? Se vuoi puoi andare, se no non è. No, no, andate voi. Allora, non possiamo fare del male. Il male è fisico, male con malus, male. Puoi solo mandarle dei bacini. Ma è soggettivo o è oggettivo? Non puoi fare nulla che anche remotamente possa far male alla persona. Quindi... Quanto range ha la pistola? Che non l'ho visto scritto, quindi non ne ho la minima idea. Non c'è da Ika, a meno che non sia dal distanza. Bene, allora il raggio è 10. Era 8 o 10? No, non c'è. No, sa che è 8. Mi ricordo un 8, però non lo vedo. È 8, quindi prendiamo 8. Allora, ipoteticamente. Praticamente, se mi metto qua, adesso sto cercando di calcolare. 6, 2, 8? No, più 4, 10, merda. Quindi è 2. O è 4? È 2, ok, quindi ci arrivo con così. Domanda, se io... prendessi uno dei miei manapenni, lo attivassi per fare luce... Poi lo metto dentro la Managan, ok? E glielo sparo contro per accecarla. Me lo faresti fare? Ti farei fare un test di tecnologia. Perché l'outcome, avendo seguito Faithless, è palese. Quindi è solo se è palese per me. I can try! Tecnologia. Non ho voglia. Fatto 7. Mi fa una conoscenza delle apparecchiature abbastanza alta da sapere che i manapenni attivi dentro un'apparecchiatura non vanno bene. Sono contro i contratti del contratto. La pistola non è mia. La pistola è tua. Ok. Esplode anche se non è un'apparecchiatura della tua società. Queste cose hanno questa pendenza folle a esplodere. Ok, va bene, e facciamo che non facciamo così, per amor di lieto. Okay. E comunque se gliela lancio contro a quest'altra con la luce, gliela lancio in faccia, riesco ad accecarla, a dare abbastanza tempo a Nibble per salire sopra. Intanto con le altre non posso fare un cazzo. Voglio accecarla. Ok. Non riesce a generare abbastanza luce da accecare con quella cosa lì. Con il manapenny, ok. Cioè, è una luce abbastanza forte, ma non è accecante. Ok. dammi solo un attimo questo lieto. +2 per M, sì, ci arrivo. Allora no, faccio un coso di passione tormentata e elettrico, però. Ok, facciamo il testing, che bello. Consumi mana penny, toglitelo e devo rollare io, mi pare. Sì, 2 per M, più 3, più livello. Aspetta che vado a leggere quant'è. 2 per M più le V. C'hai 3 di mente? Di mente, sì. 6 più 3 più 3. Fai danni, che mi pare sia flat, con passione tormentata. Dovrebbe essere flat, sì. 4 danni da elettricità. Come avevi correttamente previsto, i danni da elettricità sono raddoppiati. Quindi, okay, emette proprio un urlo, spaventa, quando va. Troia! A posto, scusate. Ok. Bene. E posso fare un passo indietro oppure è un'altra azione che non mi ricordo? Non, cioè, non ti potevi muovere lì se volevi fare un passo indietro. Aspetta, di quanto ti sei mossa più che altro? 3. Sì, poi. Ok. Dai 4 nel momento, vero? Sì, dovrei avere 4. Dammi un secondo. Chiaramente un bug. Chiaramente un bug. No, no, è 4 e 4. Fatto, posto. Vai, Adone. Illuminali tutti. No, non lo puoi. Lieto. Tocca a me. Ah, voglio far andare Adone tantissimo. Esatto. Non ah, devo fare il test. Devo fare il test. Ne hai due da fare. Sì. Questo è il primo. Non questo basta. È il secondo. No. Non basta nessuno dei due. Ottimo. It's gonna be a while. Se avete delle abilità che rimuovono i mani, questo potrebbe essere un buon motivo per un buon momento per usarle. Se ne avete. Cazzo. Avevamo un prete. Cosa? Un sessuale che prende le skill che curano le persone. Infatti. Prego. Allora, vado io a sto punto, visto che volete andare qui. No, allora, adesso Adone. Nibel è a... cioè, è refiorato almeno? È vicino a... sì, è vicino alla nave. Ok. Non posso farlo, però. Non puoi tirare un fulmine in acqua, se mi stai chiedendo. Lo so che lo posso fare. Però la mia domanda è che io non so quanto va avanti l'acqua. Cioè, non so come io uscirlo. Tu non devi farti problemi. Ok. No, infatti. Vabbè, io vaffanculo. Adesso quelle troie mi hanno rotto il cazzo, quindi... allora... non sono in acqua intrappolato con loro. Loro sono in acqua intrappolati con me. Non so se. Sì, però io ti preoccupi. Comunque... Nibel è attaccato al legno. È isolante. E infatti stavo dicendo, ma il legno è isolante tecnicamente. Sì, è in acqua, non funziona un cazzo. Però tu convinciti di questa cosa. Allora, no. Allora, comunque la maggior parte dei nemici sono dall'altra parte dove sono io. Quindi la troia in fondo non mi ha fatto nulla tecnicamente, giusto? Bene. Ah no, ok, a posto. Ammazzala. Ammazzala, sì, sì. Quella pericolosa. Allora, violenza contro le donne. Cucciolo, sì. Quanto posso caricare? Ok, io voglio usare 3 dadi sangue per tirare delle saette di in fondo alla sirena. Sei esitante nel farlo, già che le saette potrebbero danneggiare le persone che ti ammagliano. E quindi cosa... quindi non lo riesco a fare. Non hai sprecato neanche niente, sei solo... Allora vaffanculo, mi giro dall'altro lato e vi sposto. Ok, dove vai? Qua dove c'è Mif. Okay. La raggiungo, la... Non c'ho abbastanza range. È più 2. È più 2. Ma io range 6. No, lì è 8. No, infatti. Hai... Non posso mettermi qua sul... Cosa vuoi attaccare, scusa? Con la Icore di Dio, che però... Ok, hai 8 più 6, hai 14 di range. Ah. La matematica. Allora, vaffanculo, tiro, però non carico così, tiro... Allora, Previdir.it dice: tenendo conto che in genere un fulmine ha una differenza di potenziale di qualche centinaio di milioni di volt, e che comunque l'acqua di mare è un buon conduttore, si può tuttavia stimare che la scossa arriva in media a qualche chilometro dal punto di caduta, con un'intensità inversamente proporzionale alla distanza. Si può anche valutare che in un raggio di 500 metri dal punto di caduta la possibilità di sopravvivenza per un uomo sarebbero molto scarse. Chiaramente non ha la stessa forza di un fulmine, vero, però... Allora... Nibel. Allora, pensiamola così. Nibel resiste e magari prendo pure le sirene dall'altra parte. Che non puoi, quindi non puoi cazzare. No, no, scusami, se io lo tiro a loro, non so che... Io non so se effettivamente... è vero, Adone è ignorante in questa cosa. No, Adone non è un fisico. Non sentito che leggeva la pagina di Wikipedia. Os che ha il tempo di tirare fuori una pergamena. Per come funziona il sistema, la distanza a cui sono e con la nave in mezzo non arriva alle cose. Vabbè, uccido quella vicino a te, Nibel, perché tanto la vicino. Devo tirare io per resistere. Aspetta. Fermo. Scusatemi. Posso usare Yu-Yu per bloccare la sirena che sta muovendo l'ancora? Puoi tirarli Yu-Yu sicuramente. Quello sicuro. Le impedirebbe i movimenti. Come questa interagirebbe con l'ancora è un altro discorso. Puoi testare e vedere cosa succede. Io non me la sento di fare una strage, ragazzi. Oppure di fare del male a Nibel. Dai, facciamo così, cast. Basta, tiro il cuore di Dio sull'altra sirena, mi sono rotto. Uso due dadi sangue. Sono due test diversi o uno solo? Aspetta. No, solo un test. Riviste con difficoltà... Ma sei una strega, no? Ma io non ho ancora fatto niente. E allora non puoi usarlo due volte con la stessa azione? Cioè ogni... No, no, ma scusami, puoi spendere... Puoi spendere un dado sangue invece con mana penny. In questo caso danno. Io pensavo che lo posso. Ah, pensavo che lo potessi caricare più volte in uno. Ah, ok, va bene, allora un dado. Ok, quale consumi? Quello da uno di quelli da 4 o quello da 6? Ah. Nei 5 da 4 e uno da 6. Quello da 6. Tiro per resistere. Set. È inferiore alla tua difficoltà, che è. 9 più 4, 13. Sì, è inferiore. E itta. Quindi devi tirare solo i danni. Il danno è un D4. E basta. No. Sono danni elettrici. Non è 2D8? 2D8 se usi un mana penny. Se non usi un mana penny, il danno è pari al dado sangue che hai consumato. Hai consumato il dado a 6, quindi è un D6, scusa. Ok. È elettricità, il danno quindi è raddoppiato e il tuo fulmine riesce a incenerire la creatura che dopo aver reagito in questo modo sibillante affiora in mare e rimane a braccia aperte, cotta. Che cibo! L'elettricità effettivamente si propaga abbastanza da far subire un danno singolo a Nibel. Ok. Sul cibo ne riparliamo tra qualche minuto. No, manca lieto. Su cosa? Manca lieto. Hai fatto tre azioni per turno, giusto? Ti sei mosso, io? Hai usato il fulmine. No, ti manca un'azione extra. Se ce l'hai. No. l'azione extra non posso usare Future Glimpse. Puoi castare Future Glimpse, perché tecnicamente Liquore di Dio è una roba speciale, non è una spell. Vai, vuoi usare quello? Ok. Sì, però lo posso... Ah, non lo posso usare come reazione. Ok, non ha senso utilizzare adesso Future Glimpse, perché non ho... No, aspetta, scusami. Su che testa è quello per resistere alla sirena? Giallo, dialettica. Allora posso usare Future Glimpse per aiutarmi nel charm. Tiro? Sì. E tira adesso, perché devi fare il test. Test per togliere il charm. Un D10? Sì. 2? Allora. Check the eyes. Tecnicamente. Fammi solo un secondo. Hai 4 cariche di Future Glimpse. Di 10 vai. Ok. Facciamone una alla volta, se no impazzisco. Non sì. Basta. Vuoi usare Future Glimpse per ritirarlo? Yes. Vai, quindi scende a... Scende di 2. Ricordami che scende di... No, scusa, scende di 3, perché 1 di base più 2. La prossima volta che lo fai è a meno 3. Ora il secondo, quello su quella destra. Niente, vai. Vabbè, ne ritiro un altro? Sì. Hai fatto peggio di prima. C'è sempre peggio. Hai meno 3 entrambi, mentre Sara ha meno 2 entrambi, giusto? Okay. Non ho un ultimo utilizzo da fare? No, perché non lo puoi, cioè lo puoi fare una volta per ogni test, poi spammare. Ah, ok, perfetto. Però niente, fine del mio turno. Adone è come lieto con One Romance in chiesa, che ogni volta faceva un numero in meno. Eh sì, è così, sono tutte quelle le malus. Questa roba ti dà una maestria teologia. Vai a 2. Tocca a lieto. Tocca a lieto! Ok, allora io sono abbagliato contro quella di destra e basta. Sì, la di sinistra la puoi attaccare normalmente. Lo faccio subito la prova per... Ok, la fine del turno. Ok. Non posso fare niente, come se tirargli un coltello, quindi... Coltello! Prego, di 10 per colpire. Questo entra. E i danni sono un di 6, eh? Un di 8, perché era una lancia. Perché è una lancia. Allora, noti che questa creatura è resistente ai danni fisici. Cioè le squame o comunque qualunque cosa, cioè la sua pelle è di un materiale particolare, per cui la lancia non affonda come farebbe nella carne umana. Okay. Detto questo, l'hai fatto molto male, cioè l'hai ferita gravemente e un filotto di sangue esce fuori dalla ferita che hai lasciato. Questa era un'azione extra. E quindi ho ancora a disposizione un'altra azione che può essere la solita azione extra, no? Perché segue due attacchi. Sì, mi sembra che si possa ripetere questa. Allora, posso ripetere? Cioè sicuramente ho avuto un personaggio che lo poteva ripetere. Sì, è un'azione extra sua, puoi ripeterla quante volte vuoi. Then, once again, un'altra cosa. Quindi... 10 per colpire. Questo è un miss. Ica. Ti rimane miss. Una lancia. No. Di quantità di lancia? Ne avevi 4. E a 6 la lancia. Prima... No, hai tirato 4 PM. Ho fatto 4. Ne hai usate 2 adesso, ne hai ancora una. Se ne usi un'altra, hai finito le tue lance per questo turno. Per questo cast. Dimmi tu. L'ho tirata. Ho tirato anche il D10, ho fatto 5, non penso entri. Più 2, 7, non entra. Non hai più lance. E quindi sai che cosa? Spendo uno di fatica e torno indietro nel tempo. Puoi farlo. Puoi farlo. Yeah. Vuoi fare il ritiro? Oddio, puoi ritirarle tutte? Posso rifare l'intero turno, quindi posso ritirarle tutte. Posso scegliere quali dadi devo ritirare, quindi quello che... Ritirare le prime 2, la prima hai dato. Vai, ritirare le 2. Yeah. Roll. 2 di 10. Ehi, di nuovo il 10. Una entra. 14 entra più perfetto, 2, un D8 più 2. 8 più 2. Ehi, raga. È un buon tiro. 6. Noti che la seconda lancia invece affonda come fa nella pelle. Sembra che qualunque cosa avesse si è esaurita, qualunque protezione avesse, e quindi questa volta affonda e la fa sanguinare copiosamente. È viva per miracolo questa. Hai finito il turno, giusto? Ho finito il turno, sì. Tocca a Nibel. E mi devo segnare due punti bonus di. Allora, non puoi prendere più di una per turno dalle lance, quindi te l'ho segnata. Infatti ho fatto due turni. Argomento valido, ti do un punto esperienza per la cleverness. Wow. Wow. Prego, Nibel. Esco fuori un po' dall'acqua e dico agli altri, com'è la situazione lì? La nave intera? Siamo senza un'ancora. Siamo senza un'ancora, c'è un tipo lì con l'ancora che gira. Non per molto. Per sì, non fermiamo quella. E indico la tizia in acqua. Ok. Non so se andare direttamente a pigliarmi l'ancora. Beh dai, ci dovrebbe essere un sparacoso in caso. Avete due. C'era un arpione. Due per lato. Allora salgo su. Puoi muoverti, credo. Sì, sì. Riesco a muovermi qua col mio movimento. Sì, sì, sì. C'è una. Una fiocina qui da qualche parte. Che allora, posso è nello spazio a fianco, quindi sì, puoi manovrarla se vuoi. Ok, allora mi metterò qui tipo. Capiamo. Bello. Ok, sì. Qual è quella con l'ancora? Quella dietro. Ok, ci arrivo lì. Con colpo di croce. La un po' più grande. Sì. Ok, allora. Quindi è un mollo. Beh, un 10 e prende il risultato del dado. Allora, la fiocina ha tipo ha un arpione con la corda? Puoi montarne uno con la corda. Al momento ce n'è uno. Sì, sì, sì. No, no, sì, sì. E punto. E punto è tipo prendere l'arpione e lanciarlo a mano. Che probabilmente potrebbe essere più efficace. Io guardo la roba di la macchina, dico non capisco niente, prendo l'arpione, dico io lo spedisco in faccia. Ok. 10 quando usi robe senza farne aggiungi metà del tuo rosso. Conta come senza armi questa? No. Conta come un'arma impropria, non è un'arma. Allora aggiungo uno. Più o meno è come usare l'arpione. Mi stavo divertendo un sacco meno. I tuoi attacchi con armi guadagnano più uno e precisione. Sì, sì, sì, sì. Hai più uno rispetto a che ora no. Parlo con sì. Quindi non è un'arma. Quindi non conosco, overpower non aggiunge niente. Se guarda non c'è altre robe. No, direi di no. Ok. E poi qui. Uso. Reroll. Qual era? Prowess. Sì, Prowess, uso Prowess. Rerollo. Tir 8 non penso col fisico, non la colpisci, arriva molto corto, quasi a metà della strada che sarebbe per dirla, però vale comunque per ridurre. Hai usato un preso, non perché fatto questo strada vale. Sono salito e ho lanciato la roba. Tocca alle creature. Intanto sente dei rumori provenire dalla stiva. C'è un'azione extra. Cosa potresti fare? Sprinter. Sì, puoi. Che mi aumenta l'eva, cioè... Anche, vabbè, il movimento non importa, però mi aumenta di uno l'evasione. Perché si può farlo? Che uso sprinter. Like. No, ma basta, non sta. Volevo cambiare musica, ma sono sicuro che non lo farò. E agisce per prima quella con l'ancora, che facendo la creare nuota in avanti, solo la curva in traccia, e lancia Pura. In questa direzione la... l'ancora. Porca troia. Quelli più intelligenti di voi capiscono che utilizzando le vostre competenze tecnica, che è come lanciare una palla da bulle in delle freccette, potevate intuire la direzione in cui l'avrete lanciato. Non avendolo fatto, colpisce tutti e tre. Beh, quelli che erano qua sulla mano. E l'ancora è una cosa enorme, ferro, che vi travolge. E ho bisogno che vi faccia più volte per evitare. Conta come... Da... come terreno, o no, non è un effetto del terreno, no. Ok. Oi! Grazie. Lieto davanti? Io sono sì davanti. Lieto prende 3 danni. Onesti, onestissimi. Potevi prendere fino a 20. Non è successo niente di male. Hai una protezione divina che impedisce all'ancora di ucciderti. Non c'è altra spiegazione per quello che è successo. L'ancora poi procede e Adone fa un test di tecnica e riesce a intuire la direzione e si sposta. Mentre Mif fallisce miseramente e subisce un di 10 danni perché ormai è stata rallentata dal colpire Lieto. E ha fatto più male che ha fatto adesso. Ho fatto 3 volte più danni che a Lieto. Più Lieto ha fatto un cucchiaio di testi, ha fatto bello. Mif è a 9 di vita, mi confermi? Sì, mi sono sistemata. Ottimo lavoro. Sì, ti ha squarciato i vestiti, la carne. Sono a terra, immagino, I guess. Cioè, mi ha un attimino. Sì. Adone, tu che stai a fianco a Mif, la vedi che proprio va giù, cioè sparisce dalla situazione. Cioè, proprio. Prima che abbiate il tempo di reagire, di interagire con l'ancora, la creatura la ritira verso di sé. E rinizia Dio a spiritare. Cane. Dio cane, no. Scadono le cariche di Lens. No, non è vero, ce n'è ancora per le due cagate che sto per fare. Queste due sirene vengono avanti e ricantano. Allora, come funziona? Il Lieto viene ammaliato da quella da cui non era ammaliato, quindi devi resistere a quella. La difficoltà è 13. Nivel deve resistere a entrambe. Ok. Ma cazzo, non avevo fatto il tiro per vedere se mi toglievo qua di prima alla fine. Adesso. Resistere è dialettica, giusto? Sì. Non lo voglio. Allora. Mi fatto 11 alto, ma prendi anche questo. 14 questa è solo la prima, io ho i miei tiri di resistere sono propizi. Okay. 19 suppongo di sì. Ce n'hai uno. Non ho tiri neanche altro. Come? No, quindi fallisco uno e supero l'altro. Ok. Fine dei loro turni. Tocca a Mif e sentite dei rumori provenire dal motore della nave che si è attivata. E quindi tra poco inizierà a muoversi verso est. Ok. Mif si rialza un attimino a fatica, tutta insanguinata, e fa: ma troia che non sei altro! E tecnicamente quella in fondo è l'unica che non o ha ammaliato o l'ha ammaliata. No, Mif è ammaliata dalle altre due. Sì, quella dietro non ha ammaliato. Ok, perfetto. E allora Mif tenta di spararle, cazzo ne so, sì, sì, le spara, dai. E devo tirare un di 10, giusto? Per dire sì. Ok. La miss. Faccio un'altra di passione tormentata. Allora, come vi dicevo, se fate adesso... fate passione extra e fate un tiro di tecnica, potete intuire la direzione dell'ampra, altrimenti a posto turno vi colpisce e basta. Domanda: se io sparo, faccio passione tormentata, mi viene l'azione extra, giusto? Sì. Però poi non ti puoi muovere. Ok. Quindi però avrei la... tiro propizio sul... No, no, non fai nessun tiro. Non ci sono tiri, la direzione che vai dove... Ok. Ok, allora no, preferisco fare un tiro di tecnica, hai detto? Tecnica e mente. Sì. Ok, 4. Ho la fatto 9. La difficoltà era 10. Hai un modo per tirare o hai speso un'azione extra? Ho speso un'azione extra. Mi spiace. Un attimo che devo capire. Ok. Da quindi... E non so che cazzo fare genuinamente. Faccio passione tormentata allora. Mi sono già tolto il mana penny. Tirai danni elettrico. La faccio. Eh no, è 4. Devi fare tu il. Sì, dico usi la versione elettrica. Sì, sempre la versione elettrica. Entra. Gli fai 8 danni che non posso ridurre. Non era 4 totali. Fa 4. No, fa 4 danni. 4 di. Ah, ok, pensavo facesse 2, quindi 2 per 2, 4, scusatemi, ci sono. E vado a prendermi una medicina. Ok, lei è fulminata ed è gravemente ferita, tocca da dove. Ok, allora. Io sono ancora ammaliato, giusto? Da entrambe, sì. Ricordiamoci che poi Sara dovrà fare i tiri quando torna. Certo, certo. Porca troia. Posso provare a distruggere l'ancora? No, non so se è una buona idea. No, no, infatti lascia stare Ica. ti ho visto. Come dicevo, ti dai dove tirerà l'ancora, quindi se non fai nulla e... ti becca l'ancora. Ok. Posso farmene io in caso. Ma... ah, tu sei... sì, ci sei. Ok, allora vediamo se riesco a fare una cosa del genere. Provo a usare la bacchetta sulla sirena che sta muovendo l'ancora. Ok, di 10 per capire, ed è l'ultima carica della bacchetta, se la vuoi usare devi... Ok, va bene. Hai fatto 5, miss. Misso. Ok. E utilizzo Future Glimpse di nuovo. Ok, ti ridai le stack. Ok. E qua avrei finito il mio turno se non mi muovo. Sì. aspetti, faccio una domanda. Adesso che finisco il turno, io dovrei tirare per resistere alle sirene, giusto? Sì. Lo devo fare anche io. Se volessi fare rewind, andrebbe dopo le sirene o... Ok, posso provare a vedere se riesco a togliermi il charm. Ok, tiro 2 di 10. Sì. No, facciamo uno alla volta. Sì, sì, sì. Vai, fai tirare un altro a Sara, sennò mi vado fuori di testa. Ne ho già fatto, sì, ho fatto l'ultimo, secondo. Che è 6. Ah, scusatemi. Rollo un altro di... A pelo. Mamma mia. Sei immune al charm della seconda. Quella a destra. Ok. Vai, Adone, il primo. Yes. Oi. Tira il secondo. Cioè, tira il bonus perché. Ok. Basta. Aveva meno 3. Basta, è 15 in totale. E lei ok, perfetto. Di... Perfetto. Allora vado per la seconda sirena. Che era. Ok, perché allora 6, utilizzo 3, 9... il turno limit. Ok. Merda. Peggio di prima. Lo ritiro ancora. Non puoi farlo. Cioè, se lo fai un'altra volta, lo fai riavvolgendo il tempo. Se no hai il massimo. Ah, merda. No, no. Ok. Ok, quindi sono ancora charmato da quella lì alla destra. Sì. No, ma io lo voglio uccidere. Hai finito tu, in realtà, perché non so cosa hai, perché hai passato. Fare. Non so se hai sentito. Ok, va bene, niente. Ok, tocca a Lieto. Yeah! Lieto si vuole spostare alla balestra, anche lui. Ok. E sparare al tipo davanti. Questo qua? È l'unico che posso sparare, gli altri due c'hanno non ancora addosso. Puoi sparare perché ti sta ancora charmando, sei libero da quell'altro. No, quella sinistra... Quella sinistra no, è quello a cui ho sparato fino adesso. Ah, erano quella a destra e quello in alto. Quello. Ho invertito nel mio coso. Nel mio schemino. Vai, vai. Un di 10 pulitissimo, no? Sì. Allora, nel tuo caso non è pulitissimo perché hai la mente, scusa, hai più 2. È un 6. E missa comunque. Queste schifezze devono essere reloadate. Hai usato un'azione base per muoverti, un'azione base per usare la balestra e un'azione extra. E vorrei sapere dove andrà la... Vai, rolla. La grande cosa, spinnante. Quindi le balestre ci puoi aggiungere in mente? Eh sì, perché è per precisione. Ok, perché io avevo overpower attivo più di mente. Ho fatto 5. 5. Bene, non 6, 6, 6. Sì, non ci siamo ancora, serviva a 10. E quindi rifaccio un turno. Non so se puoi fare rewind. È uno fa di fatica. Sono a 5 di fatica. Volta al giorno. Usarlo tre. Ah, sì, sì, sì. Lo fai, non lo rifacciamo. Ok. E rewindi da prima. Sì. Vai. Dall'inizio del turno. Non pulito, non è successo niente. Stai riutilizzando la palestra, lo sto rifacendo in solitudine, non è cambiato niente. quanto ho fatto prima? Mi sa uguale. Cazzo, di 4, no, ho fatto di 4, ho fatto di 4. Il destino. Ho fatto un 4, ho fatto e adesso ho fatto 6 più 3 sarebbe 9. Poi siccome faccio il turno e l'ho mancata prima, non diminuisce la classe di difficoltà. No, perché hai riavvolto il tempo. No. Quella è la, la awareness, quindi non è mai stata applicata. Ah no, vabbè. In teoria ho rifatto il turno, poi alla fine del turno precedente avrei dovuto provare a togliermi il charm di entrambe, che non abbiamo fatto. Vai. Lo faccio 4 volte, e prendi 2 migliori. Hai fallito anche 10. Il test per capire dove va l'ancora, per capire. Non l'ho ancora tirato qui dentro io. Ok. C'era una bonus action. Tanto sarebbe successo o meno, sì, questa sì, cosa. Sì. I 2 migliori sono 8 e 9. A parte che ce n'è uno solo di charm, quindi l'hai fatto 4 volte e mandava più. No, ne ho due. Ok. Quello sopra e quello a destra. Quello sopra non sta cerbato nessuno. Ho fallito prima. Quando si avvicina. No, non l'ha mai cerbato. Ha fatto solo la cosa, l'ancora e basta. Ho fatto un 9. 9 più 2, 11. E 2, 13 non basta. Non basta, perché l'hai fatto prima. Cioè, se l'avessi fatto per secondo sarebbe bastato. E dopo è 8, che non basta per uno. Vabbè. Il tiro per sì. Ok. Entra. Sarebbe 16 così. Sì, e noti che l'ancora sta per essere lanciata in linea retta. O meglio, così. Perché l'idea di questa creatura è di muoversi qua e poi lanciarla sbilenca. Ok. In questo caso prenderete... Oh no, ragazzi! Sarà... Spostatevi! Scusatemi, spostatevi. Era un attimo di strazzo. Si sposterebbe qua e attaccherebbe in diagonale. Quindi colpendo sia... Mifco che a due. Tocca Nibel. Devo segnare uno di fatica in più io. Io vedo un attimo la situazione. Vedo gli altri. Dico che a mali estremi prendo Mip, mi salto nell'acqua e faccio un dropkick al tizio con l'ancora. Rallico, tiro propizio, non se l'aspettava. Ok. Allora overpower, quindi si sommano il più 2 e la metà di fisico, quindi ho più un 3, fottiglione, cosa ho più 8? Ah no, come me... Ho 4 più 2 più metà fisico che è 2, quindi 8 in totale. Sì, a colpire hai più 8 totale, sì. Mi torno, vai. Hai mente, quindi in realtà è più 10. Questo è un 20, tirane un altro. Questo è un 25 sul dado. Puoi fare i danni? Sì. I danni sono attacco senza armi, cos'era, D6? E nel tuo caso aggiungevo sì, qualcosa. Hai la classe che te lo cambia. Sì, ho il brawler. O l'altro, non mi ricordo. Sì, è un D6. Un D6 più tutti i bonus che in totale dovrebbero essere più 6, se non ricordo male. Perché i tuoi attacchi senza mi guadagnano precisione e cosa che mi aggiunge i danni anche? Aspetta. No, aspetta. Perché mi pega, non ho niente che mi aggiunge danni. C'era qualcosa, cosa a livello dopo. Allora. Se io consumo la carica di Beast Power e faccio altri due attacchi, beh, mi consideresti questo dropkick come quello di Kickmaster? Sì. Beh, se vuoi. Ok. Sì. Cioè, questione di ordine alla fine, questione di roleplay. Allora, quindi un D6 per questo. 1, vabbè. E poi c'ho altri due attacchi. Questi suppongo non siano propizi. No. 12. Entra, tira il danno. Qua c'è scritto per quanto riguarda Iron Hands che puoi cambiare un dado danno dei tuoi attacchi senza armi e un dado danno di ogni attacco, giusto? Sì. Ok. Allora, perché con Beast Power uso Cloak e faccio due attacchi. Sì, sì, sì. Faccio danni di questo qua. 6 danni. E l'ultimo attacco. 10. Bene. 8 milioni di tiro per colpire. Sì. Peccato che sia inutile. Cioè, sopra il 10 non serve a niente. Sì, sì. I danni totali sono 6 più 4. Giusto? Sì. Sì, se non ho modo per aumentare i danni, da che io sappia, perché Iron Hands aumenta i danni così. Cioè, sembra di no. Sì. Ok. Ok. Il tuo dropkick, nonostante sia epico, nonostante tutto, non gli fa nessun danno. Perché proprio vedi che no, il tuo corpo è completamente immune a sta cosa. Però okay, dopo, quando crei degli artigli o comunque descrivi la tua relazione, quelli riesci a effettivamente a graffiare la creatura, strappare la sua carne e recidere qualche organo vitale, non sai bene quale perché è un cazzo di pesce e la biologia di natura, ma lo uccidi interrompendo il lancio dell'ancora e salvando di fatto la vita. Lui ha a resistenza ai danni a impatto o immune ai danni a impatto? Sembrerebbe qualcosa di diverso, sembrerebbe che il primo colpo ha colpito qualche forma di protezione che è sparita per il momento. Ok, no, giusto perché i danni senza armi, se il bersaglio è resistenza a impatto subisco un danno. Ok. E rimango lì, sì. Ok, guarda, perfetto. La nave. No, ho un'azione extra. Non hai attaccato con l'azione extra? No, perché era il beast power, quindi. Sì, se vuoi, però. Allora uso lo sprinter di nuovo così. Cerco più uno. E dovrei fare un tiro per resistere, sono il tutto male. Di 9 più 2, quindi 11. Basta. Ok. Più 2 dal fatto che l'hai ripetuto, è 13 e comunque basta. Da punto alto su destra. Allora la nave è in moto, quindi alla fine del turno inizierà a succedere qualcosa. Però intanto tocca le creature che si avvicinano a Nibel e questa è un'azione base. E nulla non è impact. Urlo è così forte che viene avvertito da tutti quelli che non sono farmati. Quindi Adone ne tira uno, Mink ne tira uno, Pietro ne tira uno, Needle tiri uno per il danno e uno per il farm. Andiamo in ordine. Partiamo da Adone, tira un 10 per resistere. Oddio, questo yes. Non altrimenti niente, prendi un di 6 danni sacri o forse trovo te. Perfetto. Ordine 2 hai detto? No, ok, allora non contare il secondo. Prendi 4 danni sacri e vai a 5 di danni rimasti. Ho lieto che ne fai. Non credo che sia resistente ai danni sacri. Mare. No, sai di no. E dai, uno è un farm e uno sono danni. Se mi devo fare più. No, non c'è resistenza niente. Sono tutti resistere? Sono entrambi resistere, però uno è un malus e uno è a un danno. Facciamo prima il charm. Sì. Ok, sì. E l'altro è per i danni. Vai. 7 più 2. Non basta. Questa era veramente difficile. Cioè era molto fosse evitabile di base. Prendi 4 danni sacri che una cuccia nel mare. Okay. Sono charmato da entrambi, quindi adesso. Sono charmato da entrambi, sì. E la nave si sposta. E cala aspettate, di un turno il. Può spostarsi. Esce fuori Aku Pagnonte dalla stiva che si mette al timone, vede la situazione e dice vado? Ma fai tu se vuoi. C'è Nibel in acqua. Ok. Ma gli tiriamo una fune, possiamo andare. Io sono ancora attaccato con la corda, veramente. Cioè, non ancora non attaccato con la corda. Sei attaccato, ok. Tanto che sì, sei attaccato, ciao. Devo mantenere la stabilità. Questi Mahed! dritto. Portare un po' di qua e un po' di là. Sì, vi state allontanando da Nibel. Comunque prima che arrivi in tensione la corda, si muove. Tocca a... la destra la puoi attaccare. Ok. Va bene, e allora provo a spararle e a fare passione tormentata. Quindi per spararle abbiamo non va a segno. Ho rollato un D10 per colpirla. Devo rollare io per resistere. No, intendo con la pistola. La pistola prima. La pistola fallisce in maniera fisica. Terribile. E niente, adesso rolla per te. Se metti l'esperienza poi rollo io per la resistenza. Ho fatto 13 che è sotto, quindi prende 8 danni. E viene fulminata anche l'altra. Perfetto. Due azioni. Posso tipo accucciarmi? Sì. Cioè, ok, letteralmente mi siedo, così se mi tirano una conchiglia sono più difficile da raggiungere. Sì, sì. Tecnicamente. Sì, sì. Ok. Allora, sono ancora c'è armato, sì. Da una sola. Devo fare il roba. Quella destra, quella sinistra non puoi attaccare. Sì, sì, quella destra. Però non puoi tirare il più. Ma... ho fatto 12. Infatti... per rinunciarla. Riesco a evocare il coniglio sulla sirena e farlo attaccare? Non credo, sono un po' distante. Plof. MCL, MCL3. No. Puoi crearla qua al passo. Puoi crearla. Vedo. Se un passo avanti arriva. Sopra di lei non puoi, per... beh, al massimo a terra. Posso usare il cadavere morto come? Vale di... no. Allora. No, niente, niente. Dai, faccio allora un passo in avanti, non cado qua, sono no, sul limite. Ok, ok. E a questo punto casto Summon Familiar. Il più vicino possibile. Vai, nuovo. E... si metti pure l'esperienza di sta cosa. È un punto a maestria magica. La naturale. No, no, no. La naturale. Di sopra, di sotto è il livello. Sì, sì. Ok. Sì, due extra. Azione base per muoverti, azione base per castare il coniglio, è un'azione extra oppure passi? Se passi tocca al coniglio. Posso castare di nuovo Future Glimpse? Puoi setuparti Future Glimpse se vuoi, sì. Ok, sì, allora lo faccio. E dopodiché vado a far attaccare il coniglio. Sì, un punto da teurgia e c'hai 4 punti. Rolla per resistere al charm. Yes. 5 più 4, 9 più 2, 11. Non basta. Hai un altro tiro spendendo la stat di Future Glimpse. 8 e 5, dai, adesso 13 va. E 2, 15, va per 1. Bastava 7, sei libero anche dal secondo charm. Oh, fucking finally. Okay. Perfetto, ora tocca loop nuovo. Sì. Ok, allora gli faccio attaccare la sirena. Rollo di 10. Yes. Che fatica. Non credo entri. Perché mi sembra che ci abbia livello di... cioè ci abbia più 4, più 5 di... più 4 di precisione, quindi non basta. Ok. Non attacca, allora... è vero? Aspetta, vado a prendere... No, non ho... Non ricordo quanto c'ha di precisione, e neanche tu, immagino. È un gatto, tecnicamente, vero? È un gatto, sì. Il gatto ha bonus pari al suo livello, quindi più 4, 9. Però in realtà questa era molto indebolita. Puoi rollare i danni e un D4. Perfetto. Vai, Bnuo. Sapevo che potevo fidarmi. Ah no, aspetta. Così gli è cazzato nero. My bad. No, dai. Rimane a un po' di vita. Uso rewind. No, può fare più. Beh, non può fare più di così, quindi il rewind è sprecato. No, no, infatti, Calieto. Basta, e niente. Lieto, finisci il lavoro. Lieto, è l'unica cosa che può fare. Può rollare un di 10 e spera di colpirlo con la balestra, ha finito tutto il resto, Lieto, non c'è la niente. Non aveva una palla di fuoco. La fiaccia non ha più cariche, no, devo ricaricare. Però non... Ah, cucina la barca, presto! Ci sto provando. Devi fare qualcosa di diverso. Neanche quella destra c'ha delle altre cariche, però. Perché la maggior... Quanto è un turno per caricarla? Sì, ma devi cercare dove cazzo tiene le fiaccine questo e mettercela, che è la parte difficile. Vabbè, quella dietro di me. Ah, dici la stacchi. Ma attacca. Cazzo, vuoi, puoi spendere il turno intero per staccarla, montarla, caricare e sparare. Alla fine del turno sparo o al turno successivo sparo? Spari. E allora sì, lo faccio adesso. Prego, devi fare più di 5 per intare. Più di 5? Guarda lo sto 4. Questa è un'apparecchiatura che si ingolfa. L'hai caricata troppo velocemente, l'hai messa male, quindi si incastra. Aspetta. Posso pagare 2 e castare... Fito Glimpse in teoria. Retroattivamente. Questo non sia un test. Retroattivamente. No. No, non puoi. Cioè non vale per questa cosa. No, allora basta. Un turno è stato sicuramente. È passato un turno, è finito un turno. Tocca Nibel. Ho saltato qualcuno, no? Puoi rollare per resistere al mago. Ah, è vero, vero, sì. C'ho da rollare. Hai più 4. Stavo leggendo qua che effettivamente avevo letto male overpower, però vabbè, non importa. Sarà per la prossima volta, perché mentre lavora attivamente i danni degli attacchi senza armi di metà del tuo rosso, quindi avrei fatto 2 danni. Sì, più... Non, ma però è morta lo stesso, non dovrebbe niente. In realtà anche il tiro per colpire era uguale, perché io avevo aggiunto quel 2 in più al tiro per colpire. Però non dovrebbe esserci, però avevo il più 2 della competenza delle senza armi. Sì, alla fine e quindi era identico. Non è cambiato niente, però giusto per chiarire. Quella alla tua sinistra è praticamente morta, ma tu non la puoi attaccare. Quella tua destra... Io non sono charmato da tutti e due. Sì, esatto, quindi non puoi attaccare nessuno delle due. Attacco alla catena dell'ancora e comincio a tirare per salire sulla nave. Ah, no, perché l'ancora sta affondando negli abissi davanti a te. La corda che hai attaccata invece è un'altra cosa. Sì, no, lo so, è che stavo pensando tipo andare verso la nave e far sì che Aku ritiri l'ancora, perché l'ancora è staccato adesso, sì, in questo momento è attaccato. La stava tenendo in mano quella che è morta e ora si sta inabissando. Ah, ok, allora prendo la catena dell'ancora che era stata staccata e mi muovo verso la nave. Allora. Ok, è già scesa, quindi ti faccio fare un tiro di nuotare per recuperarla. Sì. Nuotare, che ho anche il più 2 di overpower. Sì. Allora, esatto, riesci effettivamente a recuperarla, però devi nuotare verso il basso e poi riemergere, quindi non ti muovi verso la nave in questo turno. Uso sprinter anche, quindi mi aumenta di 2 la velocità, quindi arrivo a 7 di velocità in totale. Esatto. Ti muovi abbastanza, hai l'ancora in mano che ti rende più difficile nuotare, quindi al turno dopo sarà un po' più difficile cosa, oltre per la fatica. Tocca alle creature che inseguono la nave e intonano un canto sincronizzato. Quindi allora Adone, Mif, no, Adone e Mif prendono 2 hit. Lieto prende un hit. Oh, yeah. E Nivel non prende niente. Il coniglio prende, il coniglio viene charmato. Non faccio neanche il test, il coniglio c'ha 0 comunque. E vogliamo fare prima Mif, che è quello più vicino a morire. Va bene. Oddio, no. Sì. A resistere, giusto? Difficoltà 15. Prendi un di 6 danni sacri dal primo canto. Prendi un danno sacro dal primo canto. Ah, aspetta. Ah, fa benissimo. Posso fare prima io i tiri di resistere un attimo? Tu non li fai. Ah, sì, perché se supero il tiro... Se supero... Sì, perché sì, se supero il tiro per resistere, io posso fare con l'overpower la spendendo cosa, posso fare la reazione, no, per tirare un cazzotto. E quindi... No, non è un attacco, quindi non puoi. È una spell, la reazione la puoi usare sugli attacchi, se non sbaglio. Puoi spendere una reazione e prendere una fatica per estendere l'effetto di un turno. Quando lo fai, puoi effettuare immediatamente un attacco senza armi su un bersaglio adiacente. Ah, sì, quando finisce l'effetto di overpower. Non posso... Ok, ok. No, allora... Vabbè, comunque devo fare i tiri lo stesso. Però a questo punto non importa l'ordine, fate pure. Tira un secondo di 6 glitch. Non puoi morire. Nel senso che anche se faccio 6 svieni ma non muori. Svieni ma non muori. Ok. Sei, quindi comunque vado a 0. Sì. Ok. Allora? Vuoi ritirare? Non ho più Dirk Glimpse. Sì, sì, puoi tirarne un altro. Ok. Porco Dio, niente. Hai il secondo. Perfetto. Ok. Tirare un altro, devi fare almeno 5. Perfetto. Il secondo lo eviti. Riesci a resistere al canto. Fastidiosissimo. Lieto, hai un roll. Un roll the fire, yes. Quindi ho preso 4 danni. Sì, te l'ho già segnato. Lo supero. Cioè, te l'ho segnato di su. Non credo. Quanto hai di dialettica? Più 3. E non era a 8, tipo, a sto punto. Perché? Questi sono i danni. Questo è un altro test. Ah, i danni! Ah, no. Sto pensando al... Non danno. Ok. Sì, grazie. 9 e 1. Però riducire. Okay. Il secondo non l'hai resistito per tanto, perché 9 più 1 10 più 3 13, quindi per 1 non l'hai preso. Sì. Ok. Tocca io più 2, quindi avrei fatto 11. Toccherebbe a Mif che è KO, tocca da 2. Ok. Allora, ci sono ancora... Io sono ancora charmato dalle sirene. Non sei charmato da nessuno. Puoi ritardare il turno per farlo dopo Nibel, se vuoi. Sì, credo che lo farò. Lieto, come ho detto prima. Puoi ritardare il turno. Esatto. Sta scherzo. No, non ho capito. Penso. Fai quello che vuoi. Ah, yes. E non ho niente da fare, cioè... Scusami, Pjanic, se nel mio turno urlo Nibel di levarsi. Cioè, tanto credo che Nibel esca comunque. Ok. Che non può attaccare. E... Thunder Call. Sento aspettare che Nibel esca dall'acqua. E tanto si è attivata un turno. Non sono in Dio per uscire. E sopra quella più... Non sto a fa danni, è tutto uguale. Non cambia la scala da distanza. Sì, no, c'ha il solito identico dopo danno. Che siano solo la casella o che siano la casella intorno. Quindi... Sì. E sì, su quella più lontana da Nibel, così nel caso. Ok. Hai castato questa cosa, guadagni già l'esperienza magia naturale. Sì, devo anche togliere. Aggiungere 3 di fatica. 8 di fatica, bello. Ah, io ti sto segnando qualcosa al contrario, sulla fatica, per quanto ti rimane. Ah, io mi stavo portando sulla fatica sufficiente nella scheda. Vabbè. E lì è fatta apposta. Sì, c'è ragione. L'unica cosa è che nero su amaranto scuro così non vedo un cazzo, non vedo. Esatto. Oh, aspetta, c'è un effetto per questo. Eccolo qua. Hai un'azione base o un'azione extra? Tra questa qua che era. No, un'azione base e un'azione extra! E la palestra davanti a me si è inceppata prima, quindi posso solamente riprovare a scastrarla, yes, e riparare. Why no? Yes. La scastri ma non riesce a sparare. Ahimè. Però ora non dovrei cazzato perché gli hai rotto la palestra. Vabbè. Basta. Dai, mi giro i polli. Mi si è. Ogni bel. Uso la mia azione, cioè uso il mio movimento con sprinter anche per salire sopra la nave. Portandomi dietro l'anco. No. Adone, sei lì davanti. La trascini. Un passo indietro e vedi Nibel che emerge dall'acqua, fa due spalle così, che ha più posizione in ancora della stessa posizione. Vanna. Esattamente. Super sexy. E tiro sulla catena con l'anco e la carico sopra e dico a Daku. Parti. Agli ordini. E Adone. Ok, magari le troie sono morte? No, le troie sono ancora vita, è una... Ammazzare. Allora, il mio coniglietto lo faccio levare dal cazzo, giusto per, e dopodiché lancio il cuore di Dio. Cosa spendi? Non c'ho mana, quindi uso dado sangue di nuovo. Perfetto, dadi 4, perché lei... Sì. E devo rollare io per resistere. La difficoltà è 6. Cos'era? 3? 4, 13. La prima resiste, la seconda no. Ma vaffanculo. Sai che forse basta. Allora. Puoi tirare. Ah no, scusa, l'avevamo letta male prima. Ora tiri più di 4. Era più di 6. Ah! Sì, sì. Allora avevo ragione. Non proprio. Vabbè, non lo so. E vai. Vabbè, che merda. Non c'è un altro future glimpse da poter ritirare. La sinistra muore, la destra è colpita. Puoi fare questo e puoi fare rewind. Beh, non puoi fare passione tormentata. È quello il mio passione tormentata. E non ho soldi, once again. Ah, mi servono i mana penny. A questo punto, sì, faccio rewind. Ok, vabbè, ritiri uso il tutto e... Ah no, ritiro il mio del test, scusa. Entrambi, tirati 4. Vabbè. 6 per 15. La frigo. Regia, quella che era messa bene, viene colpita da l'ira di Dio, che viene quella destra, quella al fianco, viene colpita dall'elettricità che si propaga nell'acqua e riesce a passare. Avete recuperato... No. E quindi a un certo punto cade un fulmine, c'è il sereno. Dopo tipo, un po' avete... sì. Sereno no, perché era brutto tempo il giorno prima. Datemi sì, un secondo che metto la musica e vi dico cosa succede. Puoi mandare il coniglio a recuperare i cadaveri delle cose, se vuoi. Yes. Sì, è quello che volevo chiederti, se potevo farlo. Lo fa il coniglio in sicurezza, intanto che Aku si aggiusta per ricercare la rotta, quindi vedete la nave che gira un pochino su se stessa. E quando è certo di essere nella direzione giusta, vi segnala di avvicinarvi a lui. Poi facciamo il level up e tutte le robe, ve lo giuro. Miff ritorna con uno di vita. Uno di vita, ok. E una pistola in meno. È una pistola in meno. Però hai tipo due cariche. Hai due cariche. O tre o due. I guess. E... vicino da Aku, portando l'ancora, gliela sbatto lì davanti e l'effetto di overpower finisce. Ok. Questa è tua. No, aspetta, prima sistemiamo l'arma di Fini Overpower. È ormai finito. Ma tanto dura, mi dura ancora 6 turni, cioè non dura secondi. Tanto, secondo me. 20 secondi. Non sono esattamente un fabbro, quindi riagganciarla sarà difficile per me. Qualcuno di voi ha qualche competenza rilevante? Palla di fuoco. Pensavo qualcosa di meno distruttivo. Adone tira fuori la sua bacchetta di Bruvino once again. Ho dei... di più forte. Oh, ma se tipo ci facciamo... ho una bella domanda, ma non posso fare il rewind sulla catena? Sull'ancora? E lei già fatto okay, il massimo perfetto. Numero di volte al giorno. Okay. Ho un martelletto, se qualcuno riesce a provvedere di un po' di calore per scaldare il metallo, forse riesco ad aggiustarlo. Dobbiamo rimanere col motore acceso finché non risolvete la situazione. Non c'è abbastanza energia per le emergenze se facciamo questa cosa per troppo tempo, quindi vi dovete sbrigare. Sì. La ragazzina traita come sta? Biff che è tipo stesa, sopravvive. fa il pollice in su, esatto. Cazzo, datemi un attimo. Scendo giù portandomi l'ancora, se c'è tipo... se c'è un argano al quale è collegata l'altra estremità. Se c'è l'argano... e vedo che in che situazione è la catena, cioè c'è tipo un anello spezzato. Sì, c'è proprio un anello che è stato squarciato, quindi c'è il segno di quell'anello e quelli a fianco sono danneggiati, nel senso che rischiate che si spacchino se li usate. Sarebbe meglio rimuoverli proprio. Ok. Lieto, tu riesci a riscaldare il metallo? Fin tanto che abbiamo una superficie dove postare del magma, quel bacile di magma che abbiamo. Siamo su una nave di legno, io non vedo quale faccia sia. Ce l'abbiamo. Si avvicina e dice: non so quando possa scaldare la mia bacchetta. È il massimo che posso offrire, purtroppo. È un bastoncino un po' flimsy, ma dargli fuoco non bruciate o. Porto l'ancora. Porto l'ancora e la catena sopra, fuori. Sì. E almeno c'è, cioè, magari evitiamo di far bruciare da dentro. Se non si riesce a fare un nodo. E tolgo gli anelli che sono rotti. Fai un nodo, certo. Ci sono degli anelli spezzati, eventualmente provo a far forza per cercare di rompere del tutto e tenere, chiaramente serve un anello aperto per forza, quindi tengo l'anello che è già aperto, che è in condizioni migliori, e ci infilo quello dell'ancora. Eventualmente faccio una prova di forza se necessario. No, ne spacchi 4 fondamentalmente. Quindi la dimensione dell'ancora è pressoché invariata, cioè la lunghezza della catena. E facendoti aiutare da Adone, più che altro, con la bacchetta. Se vuoi fare la bacchetta, altrimenti se vuoi fare lieto, cambio la mia descrizione. Sì, l'unica che io con la bacchetta è una carica, devo metterci sì, perdi fatica. Delle cariche. Perdi. Ok, perfetto. Ci mettete... Faccio forza, chiudo l'anello, e una volta che l'anello è chiuso, dico, ritengo la cosa, dico... Prova. Ci vuole più del previsto, nel senso deve castare 4-5 volte, quindi ricaricarla 3-4 volte, ma alla fine riuscite a generare abbastanza calore da fondere una striscia di metallo, non tutto, e permetterti di chiuderla con forza e sigillarla. Sembra che tenga, cioè se qualcuno gli dà una martellata si spacca, però in condizioni normali regge. Ok. Per un po' dovrebbe andare bene. Per la pausa pipì, in realtà. Io devo andare a cagare, quindi se volete facciamo la pausa, quindi... poi facciamo il level up. E... È il momento giusto. Ok, va bene, allora andate tutti in pace, a fra poco. Esatto. Wow. Ah. No, comunque ho acceso il microfono per dirvi che probabilmente qualcuno livella. Non faccio nomi. Lieto sicuramente, spero. No, dico qualcuno che è a livello 3 invece che a livello 4. Mif? Eh sì. Povero Ica. Non è al 4 Ica. No, al 3. Però forse a livello anche lui. Dipende da quanti punti gli mancavano. Comunque l'exp dei tre attacchi senza armi che ho fatto l'ho punto... già messo. Ok, perfetto. Se l'hai fatto in tre turni diversi sono tre punti. Se l'hai fatto in uno stesso turno è un punto solo. Un punto solo. L'ho fatto tutti in uno stesso turno. Ok, allora è un punto solo. Allora tolgo due... C'è la scheda avanti di Lieto, mi dici che classi c'ha? Ica c'ha le classi di Scholar, Chronomancer e Scholar. Esatto. Due da Chronomancer e ha 8. Sì, uno Chronomancer e due Scholar. Ah, ok. Esatto. Minchia, gli serve 50 per prendere il secondo da Chronomancer. Mamma mia. Male di stomaco, ma non riesco a cagare, quindi devo proprio soffrire e basta. Dica un po' di acqua, buonanotte, prima del latte. Ti chiedi successo, shakeri quel booty, vedi che... vabbè, che cazzo. Fai come i bambini, mettiti in posizione fetale sulla schiena e poi muovi le gambe. Aiuta a cagare. Io lo faccio a letto, devi la diarrea, rischio di smerdare. Devi muovere così. Muovi così mentre sei seduto al cesso, così l'intestino si stima. Vabbè, ragazzi. Oppure sai, usi la sindrome, quella delle librerie. Non so se sai, la roba tipo che ti viene, ti scappa la cacca quando sei in libreria, perché praticamente quando tu ti pieghi in avanti per vedere i libri che sono nei banconi quelli bassi e poi ti alzi, ti viene lo stimolo di... Davvero? L'intestino viene compresso e poi si rimette in posizione, quindi ti scappa la cacca. Esatto, lo so. Spesso. Altrimenti ti consigliavo di andare nel cesso del mio posto dove lavoro, perché lì c'è una brezza che proprio ti fa venire un cagotto istantaneo. Infatti mi dispiaceranno non andare più lì a lavoro, perché lì ero sicura che una volta al giorno cagavo, perché cioè andavo a pisciare e morivo perché c'era la mora. Oggi comunque pure il servizio di aiuto supporto al cagato. Sì, però. Ma voi fate conto che oggi il mio capo ha detto al mio tutor: uè, vecchio! E io sono morta, perché il capo che ha tipo 55 anni e il mio tutor che ne ha 22 sulle spalle. Come cazzo fa? Vecchio. Veramente. Tra l'altro oggi il mio tutor mi ha mandato un messaggio in full caps e io ho attribuito a ok, probabilmente... Scusate, no, ve lo mando perché adesso che sono un po' delirante mi fa pisciare dal ridere, ma mi ha mandato un messaggio in full caps e poi mi ha chiesto... E io ovviamente l'ho attribuito a... Boh, probabilmente gli è rimasto il caps e l'ha inviato. Però ve lo mando tanto sulla chat, fa pisciare dal ridere perché... Cioè lui, mandami il modello del laptop e poi tutto in piccolo, per favore. Ok, ci siamo... La canzone è... Ah, muore, ok, sì. Non mi ricordavo che fosse di Everwood. Un pochino, diciamo. La usiamo come canzone di calcolo delle robe di vittoria. Allora... Di che fight? Non mi ricordo. You were wrong, go back. E guadagnate 4 XP a testa. Ok. Perché erano 4 per 4 diviso 4, quindi 4. E sì. Vi segno io. Okay. Sì. Okay. Ok. Quello dei punti statistica, niente, vero? Eh sì, dei punti statistica avete un pool di 8 punti a con... Ho appena realizzato una cosa. Ho sbagliato il sistema, datemi un attimo. Ma in che senso? Questo di culo che sei, non ci credo. Oh. Allora. Sei simple. Cosa è successo? Dai, altro. Guardate, 8 punti a mente. Non tutti. Ve li dovete distribuire e fare voi come volete. 4 punti ad agilità e 4 punti a dialettica. Ve li scrivo. Ok, grazie. Ok, posso avere 7 punti a me. Vabbè, il cane. Allora, no, sono già cappato. Fermi, io e Miff siamo già cappati su mente, poco ma sicuro. Non esiste. No, aspetta, no. I PS blu, quelli in basso a sinistra. Riga 44, 48. Infatti, no, siamo... Ok, comunque rimane il fatto che siamo cappati a mente io e te, Miff. Io no. Sì, anche tu, l'abbiamo appurato qualche sessione fa. Sì, adesso che salgo di andare. Prendete, fate prima voi a mente, prendete quello che vi serve, io rimango per ultimo. Cioè, se volete capparvi anche portarli a zero, per me non cambia niente, c'è cioè, tanto... No, oddio, tu hai bisogno di... Ah, non... ok. Quindi... Se avanzano li prendo, però prendete pure tutti voi. Allora, possiamo fare una cosa del genere, io mi prendo quelli di dialettica. Se a voi va bene, la mente me la lascio tutta a voi. Forse mi serve anche a me dialettica, sai? E allora facciamo metà. Perché adesso c'ho la roba che scala in dialettica, se non sbaglio. Perché ho bisogno di tirare su lo speciale. No, cosa sto dicendo? Dialettica servirebbe un po' anche a me, perché generalmente mi aiuta a resistere. Però io non ho fretta, onestamente. Cioè... Beh, allora sentite, prendeteli voi due dialettica Mif e due dialettica Nibel, dai. Sto vedendo se mi conviene. Allora, io ne ho 5, 7, 16 più 7 non fa 25. No. Sarebbero 4 punti a testa di questi, perché se li volete dividere equamente sono 16 punti totali. Io farò finta di aver capito. La dico in un altro modo. Questi 16, ognuno di voi ne ha 4. Cioè, dovete dividerli in modo che ognuno di voi ne prenda 4. Allora, scusami, cioè... Ah, ok, siamo obbligati. Non prendo più di qualcosa. Sì, allora, sì, esatto. Facciamo 2-2-2, alla fine è fatto finito. Fate voi. Cioè, quando avete scelto, ditemi che vi segno. No, e io sono un maxato solo di arcano. Vero? Sono maxato di un cazzo di niente. Sono quelli in basso a sinistra, non c'è il campo. No, aspetta, io mi devo tirare sul fisico. Oh no, non ricordo. Infatti, quello è facile. Quelli in basso allora, il capo. Quelli che hanno il capo sono righe 7-11. Sono le skill. Sì. Vai in overcap. Sì, però serve ad altre cose. Quella roba in basso a sinistra. Vabbè, allora, io se posso vorrei avere un po' di dialettica, that's it. Ok, allora, quello che ti posso dire... Ok, io sono disposto a rinunciare alla mia dialettica se mi date punti mente. Fai. Io prendo quello che avanza, cioè, ma non cambia niente. Cioè, io vi lascio i 4 di dialettica, mi prendo 4 di mente. E io faccio 4 di mente e vi lascio l'agilità. La prendo io agilità, non c'è problema. E Adone. Ok, io prendo dialettica. E ti rimane dialettica e agilità. Oh. Agilità, no, agilità esatto. Okay, io prendo invece 4 di dialettica, divertiti. Ok, posso avere 4 di dialettica? Vai. Yes. Ok, allora me li segno. No. Li segno io, per favore. Ok, ok. Li segni tu. Sì, 4 ad Adone, di dialettica, giusto? Dialettica, e sono finite, sì. Esatto. 4 di agilità per me. 4 agilità. A Mif. 4 di mente. Sì, mente. E 4 di mente a Lieto. Ora vi aumentano anche i punti massimi, cioè avete dei punti laying around, come dirlo in un altro modo. Sì. Potete livellare le statistiche usando anche i punti laying around. Esatto, no, ancora. Ah, ok. Ok, quindi allora io mi porto a 25 mente. Tipo, fate come volete. Lieto può arrivare a 16 di mente, per esempio. Sì, è quello che stavo vedendo. Tu puoi arrivare a 25 di mente, sì, se vuoi. O se no posso andare a 25 di giallo, cioè di no, dialettica. La dialettica l'ha presa... ma ho 9 punti, ho 9. E non so perché mi hai aumentato di 4, giusto, io avevo 45, 5 non li avevo spesi. Esatto. Mi hai dato... Quindi io ho 9 totali, 16 più 9 fa 25. Non funziona così la matematica. Se voglio dare un su giallo. Non funziona, cioè sono aumentati quelli massimi, perché se io aumento quelli che ti segno, devo aumentare anche quelli massimi. Però se vedi sotto quelli che ti avanzano sono sempre 5. Quelli a sinistra sono quelli totali, compresi quelli che sono prima. Ho capito, mi è arrivato adesso. Mi porto... mente a 25 allora. E quanti mi avanzano? Faccio io. Un botto, te ne avanzano 9. Me ne avanzano 9 davvero? E parto mente a 16 sicuramente. E gli altri rimango lì. In attesa. No, anche in attesa. Oddio, non è vero, cioè. Giallo non livella per uno, infatti. Infatti livella, ma non so quanto ti serve. Sto pensando verde più che altro. Vado a Silvio che non ha punti da spendere perché aveva già speso tutti. No. Ma fai così, metti tutto su giallo, tanto il prossimo punto che arrivano in filo lì. Sì, sì, sì. Non cambia niente, ma almeno. Anche Nibel sa che hai 5 punti da spendere, ma cioè puoi prendere. Sì, però li devi. Ok, potevi spendere 3 per aumentare vero. Agilità. No, lo so, è che li stavo tenendo per aumentare rosso. Città, allora, ok. Abbiamo anche una roll table per i mostri. Ehi, si molla, dove si molla? Vieni, vieni. No. Avete, cioè sono 4, vi faccio tirare un di 20 a testa. Sì. Vado io. Vai, vai, vai, vai. Sì, hai ottenuto 2 unità di carne umana. What? Io ho fatto 15, che cosa ho preso? Hai ottenuto 3 conchiglie da lancio. Belle. Sanno ancora di fai di cosa? Pesce retta. Vado io? Sì, vai tu. Ok. Devo rollare un di 20? Sì, un 20. Sì. Sì. Hai ottenuto 2 unità di carne umana. Sì, sure. Me li segno io? Sì, nell'inventario, per favore, fallo voi. Ottieni una conchiglia da lancio. Sì, sì, ho già fatto. Ok, io poi ho una domanda da farti. Posso provare a vedere se c'hanno un'anima? Allora, il discorso qua non è nemmeno complesso, anzi, quelli di voi che hanno studiato all'università sanno già questa roba, ed è che le creature magiche sono degli animali, quindi hanno... Ah, è vero, sì, lo so già. Ok, perfetto. A posto, allora non ci prova nemmeno Adone. Lo smart boy. Ok, e basta. Sì, sì. Ok. Se abbiamo finito qui i level up e le robe... Cioè, il level up no, perché so che Mif dovrà farlo, lo facciamo in settimana. Mi pare... No, dietro no. Posso? Deve fare un reset per livellare. E dicevo, passiamo alle robe un po' più tecniche, un po' meno tecniche, un po' più gameplay. Akubi stava parlando e dice che entro nel character. Ok, se avete recuperato, riparato l'ancora, possiamo anche ormeggiarci per la notte. E vado a spegnere il motore. Secondo me mi parli direi di spegnere. Vado al vibe toscano. Vabbè. Io vado ad asciugarmi e a vestirmi. Quando il motore si spegne. Io vado a giocare con le conchiglie. No, Adone va da Mif. E vabbè, Adone va da Mif e non so se è seduta, se è in piedi, se è distesa, non so che cazzo sta facendo. È tipo, è appoggiata al palo, quello okay. Maestrale, il coso che, al primo maestro, grazie, e, con le gambe distese, no, che si sta tenendo tipo lo squarcio che gli ha fatto da... l'ancora e ti sta guardando mentre insomma ti avvicini a lei. E Adonne dice, cioè, vuoi una mano con quello? Magari Aku ha delle bende, qualcosa per curarti. Aveva una lanterna, secondo te ha delle bende? Possiamo comunque provare a cercare. Perché poi, scusami, uno, solo un secondo, l'hai trovata comunque la lanterna, quindi che cazzo dice, Mif? È pazza. Vabbè, allora è pazza. Se non ci dovessimo mettere le bende, possiamo caratterizzargli le scritte comunque. Sì, posso castarmi un aeromanzi. E suicidarmi. Mi faccio il report. Vabbè. Questa è una gana. Vabbè, dai. Miff, vedi che piano piano si alzano. Molto, molto dolorante fa. Andiamo a chiedere ad Aqua. E comunque cerca di tenersi i vestiti, perché effettivamente... Sì, c'è una teta di cuore. Esatto. Adone si gira verso di te e ti toglie la giacca e te la mette attorno. Per coprire. Ah, ok, pensavo... Ok, sì, ho laggato. Cosa stai facendo? Ho laggato. Lascia stare. Mi fa certa, insomma, ti fa un piccolo sorrisino, no? E si mette la giacca e si copre, fa grazie. Niente, appunto. E Adone, appunto, prosegue. Quasi sempre sta a parlare con Aqua, vedete che sta picchiettando sul timone, tanto ormai siete svegli, quindi c'è verso che lui dorma in questo momento. E sta tenendo il timone, fischietta, picchietta sul timone. E Adone si va avanti e dice: Aku, per caso avresti delle bende per Miff? Un qualcosa per tamponare la ferita almeno? Non credo. Puoi prendere della stoffa per strappare le coperte dai letti, se fate già. Sì, dai. Mi aspetta un altro una tonaca in tasca io. Zaino. È vero, è vero. Possiamo usare quella. Beh, allora scendiamo e Adone ti aiuta a sistemarti con la tonaca. Mm-hmm. Tanto... Sì, anche Adone è una donna. Momento... Miff ti guarda malissimo, Adone. Cioè, proprio ti guarda malissimo e fa: hai intenzione di girarti? Scusami, sei riferito, parli ad Adone? Sì, sì. Ok. No, beh, sì, beh, Adone si è... Allora, Adone fa per aiutarti. Se poi vede che non vuoi, a quel punto alza le mani e si gira. Mi tenta di sistemarsi da sola, poi al massimo per il nodo dietro, se ha bisogno ti chiama, però tenta di fare da sola. Ha veramente un male porco. Cioè, senti proprio che è la testa di lieto che entra, che... tipo nel... Se avesse un euro per ogni volta che una cosa è successa, mi avrebbe 2 euro. Povera. Anzi, la scena, la scena dei Looney Tunes con il... il seghetto, la segatura che scende, c'è il buchino da sopra me. Mentre Adone è girato, ti chiede: Madonna, sta canzone non riesco a prendere mai sul serio. Grazie. Zombie di Cranberry versione piano. No, bellissima canzone, che così si cover. Vabbè. E Adone, appunto, mentre lo gira, si fa: da quello che ho capito, hai dato un'occhiata nuovamente alla mia anima, giusto? Miff, che la senti imprecare per il dolore, impreca tanto, cioè non è normale, ok? Vedi che c'è una tensione nella sua lingua, esatto. E si ferma un attimo e fa: sì, ti sto tenendo d'occhio da quando mi sei resuscitato in faccia. E sono diverso in che modo? Non, ovviamente se ne spalle non sai bene che espressione ha o con che tono lo intende questo Adone. Vedi che senti la voce di Miff che vacilla e finisce di bendarsi, penso, e si gira verso di te e fa: puoi girarti adesso. Ok, Adone si gira. Lei si è rifatta un pochino, vedi, vabbè, la camicia da buttare, E ti fa, se non ti dispiace, tengo la giacca. Ho freddo. Sì, non preoccuparti. Sono sicuro che adesso serva più a te che a me. Grazie. E con Horoscope posso controllare quante anime hai dentro di te. Quindi non pensare che non mi sia ignoto quello che stai facendo. Un po'. Più del normale, insomma. Normale o... Adone ti guarda un po'. Infatti, Adone ti guarda un po' e dice più di due. Mi annoisce, fa sì, più di due. Molte più di due. Adone si gira un attimo, lo vedi pensieroso, e dopodiché si gira verso te e con una faccia abbastanza impassibile dice: beh, grazie per l'onestà. A questo punto Mif si alza. Annuisce pian piano. No, non ti lascio mica andare. Ok. Non ti lascio mica andare. Adone si alza. Ti prendi per la manica. E ti fa segno di risiedirti. Ok, allora ti guarda Cristina. Ti guarda dritto negli occhi. Che salto. Wow. No, fai conto che c'è anche il la veste al panciotto sopra, quindi in verità... Cosa tiene? Tiene. Esatto. Sì, sì. Ho spento la cam perché sto laggando tantissimo. Sì, ok. Mi sa che ti discorsi. Vabbè. Mif ti fa. Posso fidarmi di te? Adone ti guarda, ti siede per un attimo e dice: non lo so, puoi? Mif stavolta ride e lascia uscire fuori tutta la tensione che si era accumulata fino ad adesso. Me la devi dire tu, Adone, perché se non mi posso fidare si prenderanno dei provvedimenti. Questa volta è Adone a ridere e Adone ride un attimino, poi ti guardi, cioè, sarei una parte di me e forse una parte contorta sarebbe curiosa di vedere quali sono i provvedimenti che prenderesti. Però... Mi scappano nei romanzi. Vabbè. Ancora oggi? Porco Dio. Sì. Soltanto l'altro effetto. Ok. Soltanto l'altro effetto è... almeno che... Domanda. Stavo parlando. Vai, vai. Fuori dalla stanza? Io fuori. Allora... No, i romanzi dovete resistere. Prego. Cosa devo tirare? È un 10. Resistere, che è dialettica fondamentalmente. Oh merda. È più 2. Ha fatto 5, no. Abbiamo anche quello di lieto, per favore. Io fuori, però. Sì, sì, vado uguale. È una meraviglia fuori, non è romanzo. Stai scherzando. Minchia, per poco non prendi Aku. Sì, sì, esatto. Berli Aku. Il lieto muore. Ah, no, cade cade nell'acqua. Vuoi che ti spieghi una cosa, Sirio, o ti fidi? Dimmi tu. Mi fido. Bene. Ho paura. La luce del creatore sparisce e si addormenta accasciandosi a terra, o meglio, se era seduto si sdraia sul letto, se era invece proprio in piedi altrove ti accascia a terra dolcemente. No, era seduto. Ok, allora ti accascia sul letto. Sì, era seduto. Da fuori dalla stanza senti invece un tonf molto forte, molto secco, che non sai a cosa attribuire. Andiamo avanti. Sto laggando, dammi un attimo. Ok, adesso non sto laggando più. E mi si alza, cioè si mette, si siede dove era seduto Adone. E gli mette una mano attorno al collo e fa: tu non hai idea di quanto io possa avere potere su di te. Gli entra in sogno e riesce Mif a fargli una manipolazione di quello che sta succedendo fuori. Riesci a fare quello che vuoi. No, cioè, finché è Ok, fa esatto, nel sogno voglio che la coscienza di Adone sia attiva e però veda quello che sta succedendo fuori, cioè ci sono due Adone, ci sono due Mifo. quello che fai è leggermente diverso, nel senso crei una copia della stanza esterna nel sogno di Adone. Una copia one on one. Esatto. E Mif si gira verso Adone e fa: questi saranno i provvedimenti. E poi si mette al suo fianco, no? Gli sussurra all'orecchio e fa: non capisci quanto controllo posso avere su di te, non capisci che in questo momento potrei tranquillamente spezzarti il collo, non capisci che potrei farti morire di incubi, provocami un'altra volta e dimmi che mi posso fidare di te. Adone guarda, sì, guarda, sorvoliamo. Volevo che mi fera un uomo, ti ho capito. Vabbè, Adone osserva la scena e poi si gira verso Mif e si mette molto vicino al tuo viso, proprio ci sono i vostri nasi che si sfiorano. Vabbè, ma anche fa così, però. Si scrive da sola, eh. E vedi un po' di emozioni passare sul suo viso e Adone dice: Mif, io non ho intenzione di ferirti finché tu non ferirai me. Quindi ti puoi fidare. E rimane un attimo lì, un secondo ancora, e poi si stacca. Vi do solo Mi una roba, sorrido. solo un No. dettaglio, cioè continuate, ma vi do un dettaglio. Sentite una musichetta voi. No. Sento la musica. Ok. Sentite una musichetta in lontananza, non ti dà panico né niente. Ok, Adone si alza comunque, vedi che si gira ad ascoltare questa musica e si alza di scatto. Cioè, da E poi ti quando dice: hai iniziato a farti dormire, Mif. ok, a quel punto Adone dice: non interrompere il sogno, per nessun motivo. Mif alza gli occhi al cielo e fa: vorrei interromperlo per gli altri, più che altro. E in qualche modo Mif riesce a svegliare chi è caduto, Devi uscire dalla chi è che ha stanza e fatto il tutto. svegliarlo nel vecchio metodo. Col vecchio metodo. Ok, allora dico ad Adone di No, aspettare un momento. scendo giù. Sto posto lì sotto, ho sentito un casino. Vedo lieto a terra. Sì, proprio morto. Con un bernoccolo di cartone animato. Preso da tipo dalla collottola, e l'ho preso tipo forse una valigia e lo porto su in. Bene. Dopo arrivo da voi, ok? Fine attimo sta scena. Sentendo questo non hai bisogno di alzarti, sai che Allora, hanno ho visto spezzato che. il collo. Ok, seri. Mif alza un sopracciglio e fa: molto bene, visto che ci siamo chiariti, da dove proviene la musica? Riesco a sentirla in un luogo preciso? Sembra sia la musica degli ascensori. Adone nel sogno cioè va su, esce allo scoperto dove c'è il cielo, insomma. No, non puoi perché lo controllo io. No? No. Ok, allora Adore ti chiede: possiamo salire? Sì, stavo pensando la stessa cosa. Mi schiocca le dita e ci immaterializziamo Eh, subito. culo. Mamma mia, sai cosa? Adore, ti ammazzi per favore, perché però. Pensavo fosse riuscito, Sirio. No. Sto pisciando da presa. Non ce la faccio. Ok. Ed è okay. Questa musichetta. Sì. Ok. Ok, ok. Vedi Miss che è stranita e che guarda verso l'alto e fa vediamo i limiti di questa cosa, sale finché non si fa tutto più forte, ovviamente si porta a donne. Si fa mai più forte. Vai un piano B. Siete ben oltre sopra. Posso il cielo, sopra il numero. Provarci? Però non lo so, dovrei avere controllo io del sogno, ma ce l'hai tu il controllo. Dimmi, dimmi cos'è che vuoi fare. Cerca di andare oltre questo sogno, ma non solo oltre questo sogno, cerca di andare oltre questo mondo, in un luogo che solo io posso vedere. Vedi che Nif ti guarda con uno sguardo vuoto e fa... ok... Janic, Nif prova a fare una cosa del genere, ma ne è effettivamente capace? Non hai idea di dove... Sulla camera. Anch'io. Non hai idea di dove cominciare a farlo, ma ti concentri per andare oltre, cioè, ti concentri di fare quello che ti ha chiesto. Compare un pesce che sta nuotando nel cielo ed è tipo una carpa con lo sguardo da stupido. Cazzo. Tipo tipo... Grazie per la live reaction. Questo pesce qua. Immaginavo, guarda. Non... Sì, non... Non credo fosse... Hai preso un pesce con la tua magia? Non lo so se... Vada con i pesci. È una carpa del nord, delle regioni da proviene. Cazzo, se ho un range così tanto grande io mi preoccuperei. No. Cos'è che immagina, Miss? Immagina... uno dei cioè immagina, cerca di riprodurre uno dei sogni con l'uomo che ride quando era seduto sulla panchina e c'era la scalinata. La carpa, quando fai questa cosa qua, apre la bocca e vomita una panchina. Ah. La panchina c'è un individuo vestito di nero che sta sorridendo nonostante la panchina stia ruotando in maniera improbabile. Mentre voi siete fermi, vedete questa cosa qua che ruota. Sono giorni migliori. E lui? Sembrerebbe. No. Cioè, sì, nel senso è lui, non è il vero lui. Sarei morta se fosse il vero lui. Potrei dire la stessa cosa. Ne fa e ferma la cerca di fermare la panchina, no? Con le mani o con la forza del pensiero? Con le mani. Riesce a fermare la panchina e metterla dritta in modo che sia sul vostro stesso piano. Perfetto. Era più divertente prima. E Adone si avvicina e dice... Ma sei veramente tu? Uomo? Se fossi non veramente io, non sarei consapevole di non essere veramente io. Non trovi? Che domanda stupida che ho fatto. E si passa una mano sul viso. Mi si siede sulla panchina, no? E fa... descrivimi questo luogo, perché non ho idea di come farlo arrivare. È un luogo impossibile da descrivere, l'ho visto per una frazione, per un attimo, quando ero piccolo. Sei sicuro sia fuori? Non trovate che sia insopportabile questa musichetta? Sì, sto cercando di arrivare lì. Hai qualche suggerimento? Riferito ovviamente all'uomo. Sì, dovresti trovare chi è che la suona. C'è qualcuno che la suona? Beh, come potrebbe esserci una musica se nessuno la suona? Da quello che ho capito io, il luogo da cui proviene è qualcosa che non so se può essere definito infernale o paradisiaco. Credo dipenda dai punti di vista. Non lo so, a quanto pare sono solo una proiezione delle vostre immaginazioni. Io non ho mai sentito una musica del genere, quindi mi sembra strano. Quindi è la sua, è tipo indicatore. No, sì, sì, è la mia ovviamente. È la musica che sentivo da piccolo, il motivo per cui non potevo dormire. Mm. Perché quando dormivo venivo portato là. Ok, però adesso non sta impazzendo. No. Credo che abbia a che fare con la riscoperta dei miei poteri e l'aiuto dell'uomo che ride. Sta parlando di me. Mif si gira verso l'uomo che ride, poi si gira verso Adone e fa: che cosa? Beh, sì, la mia comprensione di quello che sta succedendo è che l'uomo che ride mi vuole utilizzare come ariete. E tu ti stai facendo utilizzare come ariete? Non è che abbia avuto tanto scelta su questa cosa, è da tipo, vedi che fa finta di guardare l'orologio, anzi non l'orologio da polso, ma l'orologio che ha nel taschino, e dice da tipo 30 anni che la gente mi utilizza, quindi un po' difficile capire quante siano le mie scelte, quanto sia qualcosa che è già stato scelto per me. Sembrerebbe che sia quasi ora. Ora di? Tipo, ora di cosa? Di svegliarsi, e Adone si sveglia. Ah! La vostra sessione finisce qua. Damn. Andiamo. Lascio sta musica perché fa ridere. Non c'ho una spiegazione al perché. Nivel, hai trasportato, abbiamo trasportato Lieto di sopra, e di sopra c'è Aku che è chiaramente agitato e ti facendo di avvicinarti, cioè avvicinarvi a entrambi. Io sono ancora, sono stato svegliato o sono ancora addormentato? Sveglio. Ok. Questo non mi ferma dal trasportarlo comunque come una valigia. Niente, tipo, no, vabbè, ma si sta bene qua. Cioè, tipo, sono protetto e amato. Mia. Grand'uomo, e gli batte tipo sul bicipite. Wow, tiro su, tipo, bam, sui piedi. Non è da preoccuparmi per le condizioni del mare. Ma in questo caso specifico ho un dubbio che vorrei esporre a voi. Sapete cosa sono le cose che avete ammazzato prima? Non ho idea, ma controllandole la carne che abbiamo trovato non mi sembra particolarmente di origine animale. Si chiamano Senkirie, sono dei pesci che imitano gli esseri umani fino nella pelle. La loro carne ha lo stesso sapore della carne umana. Sai qualcosa? Infatti. Dalle mie parti tutti l'assaggiano una volta. Non è questo il punto. Sono un animale di Porto Leone. Non siamo a Porto Leone. No. Ogni tanto si spingono un pochino più a nord quando ci sono degli eventi climatici strani, ma non così a nord. Pensi possa esserci qualche interferenza qualche cambio dell'ecosistema a sud. Qualunque cosa sia adesso. O quanto fuori rotta siamo andati. Fuori rotta no, abbiamo perso la rotta dopo averle incontrate, quindi comunque... E ho degli strumenti che misurano la profondità del mare, siamo ancora in acque sicure, nelle acque troppo profonde ci sono mostri marini giganti e saremo già tutti morti, quindi... No, non siamo ancora così tanto fuori rotta. Era per quello che mi sono preoccupato. Lo strumento di Aku è un bastone. Lo strumento di Aku è un bastone. un bastone molto lungo. Sì. Che vuoi? Finché funziona. Non so, cazzo, è uno strumento che funziona. Un bastone è una manovella che si srotola e arriva fino in fondo. Alta tecnologia. Okay. Di Porto Leone. Alta tecnologia. Porto Leone. È da poco, è da medicina d'antica, le centrali di Manali. Grazie per aver smorzato. Quindi non è normale trovare... Prego. Quindi non è normale trovare questi pesci in queste zone. No, è più o meno come trovare un animale del mare artico qui. Come tipo distanza. Quella foca, diciamo. Ok. Però... E... Ora sono sicuro che non aver fatto il sacrificio non ha portato niente di grave. Perché questa cosa che... Dice ragione, deve andare molto peggio. Non dipende da noi. Questa musichetta è terribile, grazie. Per ora almeno. Tu hai sentito notizie o qualcosa del genere di qualcosa che è successo a Porto Leone? Non di recente. Cristo, l'ultima... Ora muri. Non direbbe Cristo. L'ultima notizia che ho letto era che hanno costruito una centrale nei territori berber, a diverse miglia di distanza da Porto Leone, però non credo. Sai dove? Altre cose grosse non ne sono successe. Ti pareva. Va bene. Buono a sapersi. Sì, buono a sapersi. L'animale più pericoloso di Porto Leone è il Leviathan. È una specie di drago marino gigante. L'ho sentito parlare. E match for our ability. Se c'è una bestia del genere con questo tipo di imbarcazione, non abbiamo molte speranze di sopravvivere. L'ideale sarebbe andarcene. Per questo cioè cerchiamo di non usare più il motore finché non siamo... Quanto ci manca per arrivare all'isola? Senza il motore 3 giorni. La sera di... La barca non ha i remi, ben detto. Cioè anche volendo non possiamo rimare. Ha i remi. Però... Possiamo metterci io e Nibel a rimare, I guess. Potremmo velocizzare il viaggio, quello sicuramente. Con il motore quanto ci metteremo? Un giorno e mezzo, in base a com'è il vento. Comunque andare contro vento è molto lento anche col motore. E se dovessi esaurire la batteria, non hai modo per poterla ricaricare, giusto? No, la mana unit la producono nelle centrali. Sì, non è mio amico Bozzurro. Il genere di cosa che puoi pescare in mare. Ora vedi che cade dal cielo una mana unit. Non possiamo rischiare. Per ora proseguiamo senza motore. E se dovesse succedere qualcosa, parti a manetta per allontanarci il più possibile. Concordo. Se non ti dispiace, vado a vedere se posso migliorare l'efficienza del motore per te. Dio mio, no. A questo punto, qualunque cosa possa essere d'aiuto. Salutate tutti il motore. La sicurezza vado a controllare anch'io. Vi faccio fare il roll per questa cosa, ma a partire dalla prossima sessione, la del... Come si dice? la dedichiamo a fare le tre giornate, quindi saranno training, quindi roll di D100 che a me piacciono tantissimo, con piccole interaction tra una e l'altra. Cosa servirebbe come tiro? Perché io ho 4 di manomettere. No, è tecnologia. Non è manometto, che è tecnologia. È tecnologia, ok. Di cui ho 3. Io solo uno, allora niente. Mi fa 3. Magari in 2 ci si mette, si fa qualcosa. Allora, ho 2 domande. La prima è: cosa vuoi fare? Migliorare l'efficienza del motore. Lui qualcos'altro, evitare che Lieto faccia danni. Distrugga la nave, ci sta. Non è tanto la questione di metterci anche la mia parte per migliorare il motore e mettere la mia parte per limitare il Lieto in modo che faccia il passo più lungo della gamba. Ha senso. Ottima canzone comunque per Technology. E vabbè, su la descrizione tipo, vabbè, cioè, va a vedere il motore e vuole, cioè, cerca di capire tipo un po' come funziona, un po' come utilizza la mana unit, se c'è tipo il coperchione. Sì, sì. Perfetto, non la tecnologia. Tiro un 10. Persona orribile che sei, tirone un altro. Non si può mai divertire. 13, 16. La musica è giusta. Per la seconda volta in questa campagna è Lieto mette le mani su un'apparecchiatura di mana e senza avere la più pallida idea di cosa cazzo stia facendo, perché non lo sai, non c'è nessun motivo valido per cui il Lieto sappia cosa sta facendo, tira su il guscio esterno del motore, quindi manda a puttane la garanzia del motore. Questo per quelli di voi a cui interessano queste cose, ma non è mio. Notando che ci sono i dischi che castano le spell per fare eccetera eccetera, riesce a trovare un metodo più efficiente per generare lo steam, il vapore che alimenta la nave, e questo richiede che tu, invece che metterli allineati come dovrebbero essere, li metti curvi, i dischetti, e per farci il motore scusate ci metti tipo l'equivalente di Fateless dello scotch. Ok, del nastro isolante, l'equivalente, ora io non so quale sia. Richiudi l'apparecchiatura e hai ottimizzato l'output di energia della mana unit. Quindi va alla stessa velocità di prima, ma effettivamente dura di più. Ok. Sono da acqua e gli faccio sapere l'ottima notizia, che può tenere accesa la mana unit fino ad arrivare all'isola. Siamo sicuri di questa? Non c'è il mio contributo a questa cosa è questo sticker. Che ho messo su Telegram. Questo è il mio contributo a... Ha senso. E tutto questo ti dice di tenere un attimo il timone mentre avvia il motore, che fa un rumore orribile, tipo un rombo di tuono, una cosa terrificante, allontana tutti i pesci nell'arco di 40 km. Meglio, non li volevamo nessuno. E la barca inizia a muoversi alla velocità massima, che non è tanto, cioè è più veloce di prima, ma è comunque la velocità di una barca del 1600. Niente. Il viaggio ora durerà 2 giorni. E avete anche l'energia necessaria per allontanarvi da eventuali pericoli mortali. Meraviglioso. Lieto è contentissimo. Si sta visualizzando ingegnere nel futuro. Lieto tu. Sappiatelo, da adesso qualunque cosa, qualche problema ci sia con la roba tecnomagica, Lieto è convintissimo di saperne tutto. Quindi andrà a aggiustarla, a sistemarla. Lieto è un orco di Warhammer. Per tocca investire su cultura d'ora in poi. Sì. Ma secondo me più ce la basso, più è facile che faccia i roll alti, cioè una di quelle cose. Ok. Antilogiche. Tuni. E niente, questa sessione facciamo i training. Basta.